si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Ci unisce in fin dei conti sono gli stessi valori e gli stessi ideali culturali. Grazie Cinzo per la tua accoglienza. E c'hai ragione. Ho messo l'ultima volta che l'avrei portato a mangiare una pizza seria e il posto più buono del mondo, sono buonissime le pizzerie italiane in Giappone, ma particolarmente buono è Napoli, per cui una delle prossime volte dobbiamo andare a mangiare una pizza insieme a Napoli. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare, 18, 20 e 30. Lunedì ricominciamo una nuova settimana insieme, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta come ogni sera su Radio 24. Vi ricordo anche gli altri nostri contatti se volete interagire con noi in tempo reale. La pagina Facebook Si può fare, trattino Radio 24. L'account su Twitter, chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Insomma, alla fine Matteo Renzi torna ad usare la solita arma, quella classica del Made in Italy nell'incontro con il premier giapponese. Vieni a farti una pizza a Napoli, risentiamolo. Mio caro presidente, ho messo l'ultima volta che l'avrei portato a mangiare una pizza seria e il posto più buono del mondo, sono buonissime le pizzerie italiane in Giappone. Ma particolarmente buono è Napoli, per cui una delle prossime volte dobbiamo andare a mangiare una pizza insieme a Napoli. Chissà che abbia ragione Renzi, che si fa davvero così il Made in Italy, si fa davvero così la promozione dell'Italia, puntando sui nostri punti di forza, sulle nostre prodotti, sulle nostre eccellenze, oppure se invece non si rischia sempre di fare la solita macchietta dell'italiano e della pizza. Sentiamo la risposta di Matteo Salvini, risposta a distanza. Oggi c'è quel fenomeno di Renzi in Giappone e speriamo che se lo tengano là e apra un baretto di sushi che almeno sarebbe più utile al prossimo. E questo dal Giappone va a dire: i sindaci devono lavorare di più. Magari vai a dirlo a certe latitudini, vai a dirlo a Marino, vai a dirlo a Crocetta. Ma i sindaci ci fanno un mazzo così, nonostante lo Stato rubi i soldi ai cittadini. Beh, adesso Salvini, i sindaci si fanno un mazzo così, mica tutti, comunque guai a toccare i sindaci del nord, secondo Salvini. Altro tema, sempre toccato da Salvini, però qualche giorno fa, è quello che riguarda Azzollini, il voto sul senatore del nuovo centrodestra, accusato di bancarotta fraudolenta, la richiesta d'arresto della magistratura di Trani. Lo sapete com'è andata a finire, secondo molti una svolta neogarantista da parte del PD di Renzi, che promette nuove scissioni a sinistra. Sentiamo come la vede Salvini sempre su questo. Azzolini mi ha fatto venire un nervoso, ho fatto qualche giorno al mare col bimbo e la gente era imbestialita, perché un politico che sbaglia dovrebbe pagare doppio rispetto al normale cittadino, qualunque funzionario pubblico che sbaglia dovrebbe pagare il doppio perché ha il doppio della responsabilità. Sottoscrivo Salvini, sottoscrivo al 100%, un politico che sbaglia dovrebbe pagare come gli altri, via, se non il doppio, almeno come gli altri. Invece gli altri sono finiti in galera, quelli della vicenda di bancarotta fraudolenta su cui sta indagando la procura di Trani, e Azzollini invece no, tranquillamente. La questione del piagnisteo, del presunto piagnisteo, almeno sempre secondo Renzi, secondo la vulgata del Presidente del Consiglio, poco fa la risposta su Twitter di Saviano, che dice occuparsi del Mezzogiorno. Roberto Saviano dice non credo che possa, anzi non deve, mi dispiace che questa cosa possa essere tacciata di piagnisteo. Sentiamo anche questa volta chi è, Renzi. Bisogna smettere di piangersi addosso e tirarsi sulle mani. Questo vale in tutta Italia, vale in particolar modo in questo momento nel Mezzogiorno, che ha delle potenzialità inespresse. Ha ragione Roberto Saviano quando lancia un allarme sulla condizione del Sud, e ha torto Matteo Renzi quando dice basta con i piagnistei. C'è un Sud che sta morendo e quel Sud non chiede prediche o battute, chiede politiche per l'occupazione, politiche per lo sviluppo, politiche per la salvaguardia ambientale. Se non ora, quando? Quest'anno noi perderemo alcuni miliardi di euro europei. Alcune delle cose, poche cose buone dell'Europa sono i fondi alle regioni che erano più svantaggiate. Le classi politiche meridionali, penso alla Campania, penso alla Sicilia, non sono neanche stati in grado di spendere in 7 anni i miliardi che avevano a loro disposizione, quindi lì c'è un'incapacità a Napoli piuttosto che ad Agrigento, piuttosto che a Bari. Yes, I'm gonna be strong. Yes, I'm gonna be strong. Don't wanna make you too comfortable. When every time you're wrong, a Radio 24 sono impazziti. Cosa trasmettono? Già ci pensa Focus Economia a far sentire le basi dance. E questa invece è la musica di DJ Claudio Coccoluto. Buonasera. Grazie mille per l'invito e soprattutto grazie per il disco, mi fa molto piacere. Lo riconosci, lo riconosci. Quante musiche hai mixato e prodotto? C'è un numero? Ma chi lo sa? Un centinaio e altrettanti temi. Sentiamo, sentiamo. Guarda, posso farti un appunto sì. Su Focus Economia? Dobbiamo parlare con col Sebastiano. Con il dottore, perché... Sì, perché secondo me la scelta musicale si potrebbe affinare ancora di no, più. No, non glielo diciamo. Dire perché si arrabbia moltissimo se gli dice una cosa no, del genere. No, perché lui ci tiene tantissimo. Mi proponevo sì. Beh, se ci consulente gratis. se ci fai al dottor no, Barisoli una consulenza gratis, credo che non la rifiuta mica. Per stare all'altezza del suo commento politico, sì. Economico, nel senso di stare a quel livello, forse no. Oddio, mi sono autoincensato, comunque scusa. Vabbè, è normale che insomma ci sia anche un po' di competizione tra DJ. Io non conosco tutte le basi che usa assolutamente Sebastiano, cioè, però, si può migliorare, si può fare di meglio. I mestieri creativi vivono anche di competizione, quella sana e costruttiva. Certo. Senti, hai sentito poco fa c'è stata la conferenza stampa del patron del Cocorico. Che... Leggevo a sprazzi su sì. Facebook, non ho potuto vedere. Ma è proprio di poco tempo fa, non abbiamo ancora l'audio. Tra l'altro, il Cocorico ha detto sottoposto a un processo sommario, ora rischia il crack. Siamo un baluardo della lotta alla droga. Ora, io questo non so se mi spingere fino a tanto, ma questo è quello che ha detto lui. Senza strumenti diversi, gli spacciatori andranno altrove. Mi sembra una conclusione. Su questa ultima affermazione sono d'accordissimo. Non è che se uno chiude una discoteca gli spacciatori si smaterializzano, non è così. Ma guarda, torniamo un po' indietro, sì. No? Partiamo da dove tutto è partito, dalla tragica morte di un sedicenne sì. Che ha preso della droga per andarsi a divertire incidentalmente al Cocorico, okay? Poteva andare in un altro locale, magari non lo so. Se facciamo il commento di questa notizia, il nocciolo del commento, il nocciolo della questione che dobbiamo affrontare è perché un sedicenne si mette in testa di drogarsi per andarsi a divertire ed è un problema sociale, psicologico, sì. Aiutami a trovare la parola giusta e soprattutto come mai la trova così facilmente? Dentro ecco, e fuori la discoteca, perché la trova dentro ma la troverà anche fuori. Mi soffermerei qua. E qui dovrebbe secondo me intervenire anche il discorso istituzionale, perché la lotta di contrasto alla droga e allo spaccio della droga, perché la lotta alla droga io penso che ormai vede la società arresa totalmente, il contrasto allo spaccio si deve fare prima che arrivi la droga in discoteca. Sappiamo che quello potrebbe essere il posto di elezione perché il marketing dello spaccio certo. Contrabbanda l'idea che tu ti diverti di più da drogato, no? Cosa sulla quale io sono dissenziente in maniera totale e fermissima da sempre, perché sono un produttore di musica, io ho bisogno di gente consapevole che ascolti e giudichi il mio operato. Un minimo di lucidità, un minimo, ma anche no, un minimo. Non proprio no, il minimo. Io pretenderei il massimo. Allora, io credo che adesso continuiamo l'intervista, facciamo una pausa per il traffico. Credo che sia una delle classiche situazioni all'italiana dove, non riuscendo a governare un fenomeno, si vieta, si proibisce, si chiude, si transenna, perché è più facile. Poi tutto passa e si torna alle cose come stavano prima. 800 24 0024, torniamo tra un attimo con DJ Coco. Si può fare l'attualità anche d'estate. Yes, I'm gonna be strong. Yes, I'm gonna be strong. Don't wanna make you too comfortable. When every time you're wrong. Allora, come detto poco fa, c'è stata la conferenza stampa del patron del Cocorico, che ha detto appunto, abbiamo già ricordato alcune frasi, il questore, che è quello che ha disposto la chiusura per 4 mesi, ha fatto un processo sommario a 10 anni di attività del Cocorico. 120 giorni di stop in questa stagione significa che la discoteca, prima in Italia e sedicesima nel mondo, chiude per sempre. Tu ci hai lavorato recentemente a Cocorico? Recentemente, guarda, 2 sabati fa. E che locale è? Un locale diverso dagli altri o no? Ma il Cocorico, sai, da quando esiste, ha rappresentato sempre iconicamente, grazie alla sua piramide, proprio la sua forma, un po' la discoteca per eccellenza, perché sulla collina che domina Riccione è stata la località dell'Adriatico che ha sposato per prima la cultura dell'Aust, quindi del clubbing moderno, per essere più esplicito. E chiaramente Cocorico e altri locali hanno rappresentato negli anni 90 la modernità del nostro paese, che era affiliata a quella dei paesi come l'Inghilterra e l'America, che erano i punti di riferimento culturali e musicali. E insieme a Cocorico c'erano l'Ecos, c'erano Peter Pan ancora esiste, qualcun altro non più, quindi ha anche questo valore iconico di essere sopravvissuto a molte stagioni, no? Sì. Ma anche per ragioni commerciali, economiche, crisi, non crisi, passaggi di mode. Quindi, come dire, è un locale che ha, come hai detto tu, anche una riconoscibilità internazionale, viene considerato dai DJ stranieri una tappa fondamentale da fare in Italia. Beh sì, insomma, è ancora un luogo di attrazione straordinario anche tra gli italiani, insomma, si va lì più, quindi, che altrove. Se lo è per gente che ragiona col cervello e in termini di marketing positivo, figurati se non lo sia per chi ragiona in termini di marketing negativo, perché deve piazzare il suo prodotto droga. Ma è vero che oggi più di ieri, tu che hai una certa esperienza di discoteche ce l'hai, hai parlato degli anni 90, sono tanti anni che fai questo lavoro, c'è più di ieri la ricerca solo dello sballo, oppure non è così, oppure è sempre stato secondo lo me stesso? Quello che si è modificato è che dobbiamo rivoluzionare proprio il concetto culturale di divertimento, e credo che su quello bisognerebbe agire con forza, cioè? Ovvero che questa idea del marketing di chi vende droga, di accomunare droga e musica per super divertirsi, sì, è una grandissima fesseria, però l'hanno talmente ben venduta che ci sono generazioni di giovani, cosa che non succedeva prima, perché il retroterra degli anni 90 era l'eroina nel rock, l'LSD nel rock, cose pesantissime che tutti quelli che hanno la mia età conoscono bene e abbiamo guadato, giusto? Allora, con quell'esperienza per la nostra generazione è stata molto più facile non cadere in nessun trabocchetto. cosa che secondo me per le generazioni più come dire, più recenti sono dei veri e propri inganni. E io credo che questo, perciò ti parlo di termini culturali, perché bisogna smantellare l'appeal che ha la droga rispetto al divertimento. Ma perché secondo te c'è questo appeal? Perché è chiaro il discorso che fai tu, bisogna far pensare che per esempio uno può stare tranquillamente ore e ore a ballare senza doversi, anzi se ti sballi a un certo punto non capisci più niente. Però perché invece c'è questo appeal? Nessuna... Perché c'è però questo appeal? Secondo te, visto che ci stai a contatto poi con questi ragazzi? Cioè, prima di tutto non c'è nessuna necessità di stare ore e ore a ballare. Cioè io non capisco perché questo sia un imperativo categorico. Primo, quindi uno dovrebbe ballare secondo le proprie come dire, esigenze. Cioè da ognuno secondo come era il vecchio adagio, esatto. No? E quindi probabilmente le ragioni commerciali, no, spingono verso questa possibilità. E chiaramente nel passato sono convinto che molti abbiano chiuso pure un occhio rispetto a certe cose, ma eravamo in epoca in cui questi fenomeni di spaccio si potevano considerare quasi naif, no? Cioè non, sì, non così. Però scusami se tu dici le ragioni commerciali che spingono anche ad allungare la durata della serata, questo però ti riferisci anche ai gestori delle discoteche, dei locali, cioè ti tengono dentro anziché due ore, sei ore, in maniera che tu consumi tre volte tanto. È chiaro che se tu hai quel tipo di locale o atteggiamento nel business, ti torna indietro qualche vantaggio. Da qui però a far come dire pascolare gli spacciatori nel tuo locale ce ne passa parecchio. Cioè il punto è che per contrastare lo spaccio ci vorrebbe un'azione compiuta e non così come dire delegata a che cosa? Al cocorico che spenda o non spenda per la sicurezza. Se il cocorico spende, magari ci sono altri locali che non lo fanno. Perché De Mais ha detto di avere speso un sacco di soldi. Cioè lui dice che in 10 anni hanno cercato di fare un baluardo del divertimento sicuro della lotta alla droga. Non so quanti soldi ha detto di aver speso, mi pare 150.000 euro. Infatti mi riferisco a questa affermazione, però io non credo che un privato telecamere dentro e fuori, eccetera, cioè vigilantes. E non serve a niente, cioè, questa roba secondo te? Cerco di spiegarmi meglio. Sì. Secondo me si dovrebbero sedere a un tavolo gestori locali e forze di pubblica sicurezza e stabilire una strategia di contrasto vera, non basata su la chiusura spot, perché così sembra essere. Oltretutto nella motivazione della chiusura si parla che da anni questo locale è un crogiolo di cose cattivissime. E allora secondo me doveva essere già chiuso, se vogliamo metterla in certo, considerazione. Perché aspettare il morto? Perché chiuso, aspettare il morto? È vero. Avremmo evitato una morte, no? Cioè, se è vero quello che dice il questore, se è provata tutta il curriculum negativo del locale. Quindi non capisco perché deve pagare il locale per un'azione che non c'è stata prima, se stanno così le cose. E in ogni caso, guardando avanti, perché adesso questo stiamo discutendo del cocorico perché hanno chiuso lui, ma mi sembra che il Ministero degli Interni abbia già detto che si vuole orientare verso una repressione, sembrerebbe, sì, totale e indiscriminata dei locali notturni. Che noi che siamo un paese turistico ci fa benissimo l'economia, immagino. Ma no, certo, bisogna trovare delle altre soluzioni, non chiudere i locali. Ma secondo te uno come il questore di Rimini, per esempio, è possibile che abbia agito anche con poca informazione? Sicuramente lui non c'è forse mai entrato al cocorico. Io voglio sperare di no, però chiaramente questo non saprei risponderti. Rimango sulla speranza, mi piacerebbe come dire che accettasse delle interviste anche lui per raccontarci come si arriva a una decisione, sempre che possa farlo. Quello che mi dispiace è che il contrasto avvenga come ultimo anello, cioè proprio al capolinea definitivo di una situazione, mentre mi aspetterei dagli inquirenti che risalissero la catena, la filiera dello spaccio, perché se è vero che Lamberto è morto, se è vero che gli hanno passato della droga, se è vero che qualcuno ha rifornito di droga il l'ultimo venditore, risalendo a qualcosa che bisognerebbe arrivare. Cioè, questa droga non casca dal cielo, qualcuno la fabbrica, qualcuno la mette in commercio. Io credo che l'azione di contrasto debba avvenire là e non nel locale. Anche per esempio informando e rendendo più consapevoli i ragazzi sull'uso, perché per esempio buttare giù una pastiglia data da un amico, possiamo dire una cosa, che è una follia assoluta, cioè uno può bere un bicchiere, due bicchieri. Guarda, venduti dal locale, sai quello che compri, sai quello che bevi, puoi farti una canna se sai quello che stai fumando, ma buttare giù una pastiglia data da il primo che passa così, io diffido puoi morire all'istante. Diffido delle medicine che mi dà il mio medico, quindi pensare di buttare giù una cosa e non conoscere la composizione degli effetti per me è terrorizzante, semplicemente. Però ti dico anche un'altra cosa, negli altri paesi, soprattutto anglosassoni, che sono abituati a una cultura del minor danno e soprattutto al pragmatismo anglosassone che conosciamo bene, questa cosa la combattono, come hai detto tu, con l'informazione. Ci sono tabelle in cui addirittura analisi periodiche delle sostanze in commercio e indicazioni su come addirittura usarle con il minimo danno, perché messo e non concesso che tu la voglia usare, perché il libero arbitrio in questi paesi è sacro, almeno tu devi essere informato su quello che ti può capitare usandole e come limitare i danni. Ora, io non ti dico che questa è la soluzione, ma in Italia non si è mai praticato questo tipo di informazione. Forse troppo poco, forse non è servita abbastanza, e sicuramente io ribadisco, credo che non serva a niente chiudere un locale così, insomma, un locale chiuso per 4 mesi. Tra 4 mesi cosa fanno? Riaprono e si riparte. Guarda, nel frattempo mi sembra un'operazione proprio spot, e poi secondo me tra 4 mesi c'è veramente il rischio che non riaprono. Tutti sarebbe come chiudere, sarebbe come chiudere le sagre estive tutte in Italia perché la gente si ubriaca. Ma guarda, io mi sono lanciato in paragoni peggiori su Facebook proprio per dare, come dire, una scossa e far pensare un po' le persone sul fatto che non è vero che stanno chiudendo la discoteca perché se lo merita. Cioè, è un discorso di principio. Se dobbiamo affrontare il problema dello spaccio, lo dobbiamo affrontare seriamente e soprattutto dare anche ai gestori dei locali, che hanno la responsabilità oggettiva delle persone che ospitano, anche i mezzi per contrastarlo. Perché se poi loro non possono muovere una foglia perché non hanno gli strumenti legali, non hanno la possibilità di fare perquisizioni, non hanno la possibilità di fare niente. Io, per quello che ne so io, il Cocorico ha un sistema di telecamere a circuito chiuso con cui cercare di controllare e rilevare i movimenti. È uno degli investimenti che sono stati fatti. Ma poi non sei in grado di fermarla la persona, no? No, sei in grado eventualmente di controllare i movimenti e di sapere se succede qualcosa, forse andando a rivedere le immagini, di scoprire chi può avere fornito queste pasticche, forse. Questo sì. E io immagino che sotto questo aspetto loro avranno fornito la massima collaborazione. Sicuramente, questo penso. E immagino anche che questo possa essere fatto in tutti i luoghi pubblici, compreso i bar, compresi gli stadi, compreso le scuole. Cioè, non è che le piazze dello spaccio sono le discoteche per eccellenza, appunto. Cioè, le piazze dello spacciatore spaccia dove c'è gente. Se ne frega se lì si balla e là si mangia la pizza. Cioè, l'importante è che lui porti a casa il suo risultato. Quindi, secondo me bisogna modificare il pensiero che c'è dietro questa idea di contrasto allo spaccio. Chiudendo la discoteca abbiamo fatto il nostro dovere. Secondo me non è così. Stasera sei da qualche parte a mettere musica? Questa sera sono in un posto fantastico che per la prima volta mi danno la possibilità di usare, che è Torre Truglia, che è una torre saracena, che è l'emblema di Sperlonga. Sai, io sono della costiera pontina, sud pontina, e quindi c'è un piccolo party quasi amichevole, perché è un posto piccolissimo, però ci vado con molta con molto entusiasmo, perché mi piace moltissimo avere la possibilità di usare delle location alternative. Che bello, può partire comunque anche da voi DJ di nuovo una volta un appello, non so come vuoi dirlo, ai ragazzi a divertirsi anche sballandosi, ma in maniera intelligente, in maniera, non so, ma come guarda, dire, lo sballo, quello, purtroppo questa parolaccia che ormai non ci scrolliamo più di dosso, può venire proprio dalla musica. Cioè io ho sempre sballato di musica. Adesso io mi ascoltavo The Dark Side of the Moon in cuffia da ragazzino, anch'io. Al buio per ore, e mia madre pensava che fossi strano, cioè ma la verità è che io mi stavo sballando della musica dei Pink Floyd, e io non ho mai avuto bisogno di altro che di quello. Allora il mio messaggio è tutto qua: cercate lo sballo nelle vostre endorfine, non nelle sostanze esterne, perché la vita e il mondo è fatta di queste emozioni, queste sensazioni. Quelle là sono chimiche come la roba che ingollate. Grazie Claudio, ciao, buona grazie serata. Sono Jay Coccoluto, grazie. Si può fare l'attualità anche d'estate. We don't need no education. We don't need no thought control. Dedicata a Coccoluto, che ci ha raccontato quando, come e quando da ragazzino stava in camera sua ad ascoltare i Pink Floyd e sua mamma pensava che fosse fatto, strafatto, invece lui era solo fatto di musica. Condivido parola per parola quello che ha detto Coccoluto a proposito delle discoteche, dei giovani, dello sballo. Stasera a mezzanotte, quando va in replica il programma, me lo riascolto per sentirlo meglio, per godermelo. 800 24 00 24. Luca da Udine, buonasera. No, Luca da Udine non è stato il miglior modo per iniziare le telefonate questa sera. Andiamo con Rocco da Milano allora. Rocco, buonasera. Buonasera a lei. Avevo chiamato settimana scorsa, sì, per parlare della questione meridionale. Ok. Che è sempre d'attualità, perché insomma... Assolutamente sì, però preferirei, se non le dispiace, fare un intervento in merito a quanto accaduto a Riccione. Tutto quello che vuole Rocco, tutto quello perché che vuole. Casualmente sono un ex operatore del settore, ho gestito alcune discoteche in Italia. E la stanno ancora inseguendo per i danni che ha fatto? Mi auguro di no, però preferirei ovviamente, siccome magari potrei dire qualcosa di... diciamo compromettente, tra virgolette, non sì, dire quali, di quali locali parliamo. Vabbè. Allora, innanzitutto apprezzo il signor Coccoluto perché è un grandissimo DJ, oltre che un grandissimo professionista e sicuramente una delle persone più pulite del settore. Però bisogna un attimino rompere questo muro di ipocrisia. Sì. Io ho 42 anni, ne ho vissuti circa 25 all'interno di locali notturni. Sì. Bisogna smetterla con questo perbenismo per cui si crede che in realtà non sia il contesto a generare determinati comportamenti, ma piuttosto siano determinati comportamenti che sono preesistenti. Le discoteche sono strutture costruite all'uomo, ma certo, per, è ovvio, per spingere che, le sì, persone verso un determinato approccio, e c'è comunque da parte della direzione, della gestione, del gerente, lo definisca sì, come vuole. Però guardi sempre... Rocco, sì, è ovvio che le discoteche sono un luogo dove si concentra questo tipo di attività, però sì, è altrettanto ovvio che ci sono un sacco di persone, forse la maggioranza, che ci vanno e non buttano giù nessuna pastiglia. Certo, però le faccio notare che nessuno va in discoteca e va in pizzeria a buttare giù pastiglie. Mi dispiace tanto, io vorrei prima il questo signor... io non lo so, questo non lo so, se la gente non butta giù le pastiglie prima di fare qualunque cosa, questo non lo so. Lo posso dire perché tra le altre cose, per fortuna non ho gestito solo discoteche. È evidente sì, che il luogo deputato per il consumo, perlomeno agli occhi dell'avventore. Però mettiamola così, Rocco, mettiamola così. Anche il pub è il luogo dove si bevono le birre. Però siccome ogni tanto qualcuno esagera, allora chiudiamo tutti i pub d'Italia? No, no, però mi perdoni, se sì, mi lascia esprimere il mio concetto, poi magari mi... Sì. Allora, io voglio dire una cosa: una discoteca è costruita appositamente, a partire dalle luci, dalla struttura, dalla musica, per spingere le persone verso un certo tipo di approccio. Una persona normale, persino un consumatore di pasticche, le posso garantire che non prende una pasticca per andare in pizzeria con gli amici a mangiare. Vabbè, questo l'ha già detto Rocco, giunga alla conclusione del suo ragionamento. Giunga alla conclusione che comunque da sempre, da parte dei gestori sì, della discoteca, c'è un atteggiamento permissivo, in quanto il fattore consumo delle droghe all'interno delle discoteche è fondamentale, in quanto è uno dei volani più importanti degli incassi che la discoteca produce. Lei crede sì, forse perché guardi, io le faccio il solito paragone di prima. Anche nelle birrerie c'è un atteggiamento di condiscendenza. Bere tanta birra fa male. Sì, si ma può la birra non è proibita per legge. Mi scusi, lei non vuole farmi esprimere il mio concetto? No, no, ma l'ha già espresso, Rocco. Ha assunto una posizione che è decisamente supina nei confronti di quella espressa dal DJ che ha parlato poc'anzi. Ma è evidente che bisogna prenderne atto. Di I cosa? Locali vivono anche di questo. I locali permettono che ci sia consumo. Allora... I locali permettono che ci sia spaccio. Mi scusi, perché perché il signor amministratore della discoteca che mi dice che in 10 anni ha speso 150.000 euro di sicurezza. Beh, guardi, io gestivo una discoteca a Milano che era grande un decimo del Cocoluto. No, del, ok, guardi, facciamo così, le rovescio l'argomentazione. Ha ragione lei, al 100%. Le discoteche no, sono... non pretendo l'aver ragione. No, mi faccia finire, Rocco, mi faccia finire. Ha ragione lei, le discoteche sono fatte apposta per sballarsi. Allora cosa facciamo? Chiudiamo le discoteche, però chiudiamole tutte adesso e non le riapriamo più. Esiste una normativa. No, mi risponda, scusi. Vai, vuole sapere la mia opinione. Sì. Secondo il mio punto di vista, molte discoteche andrebbero chiuse. No, innanzitutto le faccio lei ci ha lavorato per 20 anni, adesso che non ci lavora più, le vuole chiudere. Ma guarda, forse perché ho dei figli, le faccio notare che comunque un sedicenne per legge non potrebbe andare in discoteca dopo un certo orario. Eppure quel sedicenne era in quella discoteca, perché all'ingresso i buttafuori non si sono preoccupati di chiedere il documento d'identità. Bravo, ma questo è un altro argomento. Ci sono delle regole e vanno rispettate. Vanno fatte rispettare le regole. Le regole vanno fatte rispettare, non si chiude un locale, si fanno rispettare le regole. Questo è quello che penso io. Incasso. Perché rimbalzare un sedicenne che può produrre incasso? Mi creda, funziona così. Poi se vogliamo fare le persone per bene che qui al di fuori del contesto possono parlare di tante cose definendole corrette e volendo necessariamente attribuire la figura. La decisione di chiudere la discoteca l'ha presa il questore. Il questore è il capo della polizia ed è quello che dovrebbe controllare che le regole vengano rispettate. Io quindi io contesto, Rocco, non mi parli sopra, Rocco, non mi parli sopra, Rocco. Hai ragione, mi scusi. Io contesto la decisione del questore di, invece di preoccuparsi, come dice lei, di far rispettare le regole, di non far entrare chi non deve entrare, di controllare che non si spacci eccetera eccetera, di chiudere la discoteca a un bel punto. Io questo contesto, non contesto i gestori del Cocorico, quello che si fa dentro, quello che non si fa dentro, contesto il questore. Ma così funziona in Italia, bisogna aspettare che ci scappi il morto perché le persone cominciano ad agire, a prendere atto di come funziona lo Stato e le leggi. Però ripeto, questo è lo stato delle cose, poi uno può anche non vederlo se scusi vuole. Scusi Rocco, tanto così, adesso lei che lavoro fa, ha cambiato? No, io lavoro tuttora nel settore, mi occupo di consulenze esterne per locali e non seguo discoteche perché sono il tipo di che locali. Tipo che, di locali? Che tipo di locali? Ristorazione, cocktail bar. Consulenze, cosa fa? Vende qualche prodotto? No, lei, ad esempio, lei deve aprire un locale, un ristorante, non è del settore, semplicemente sta facendo un investimento in quanto imprenditore e si rivolge a me. Per sapere dove, come aprirlo, eccetera. Più che altro, il dove di solito me lo danno perché mi propongo, la location ce l'hanno già pronta, più che altro per sapere che tipo di attività, fare training al personale, selezionare il personale, definire una linea di lavoro, dare insomma tutte quelle strutture che sono fondamentali per qualunque tipo di azienda. E come va il settore in Italia in questo periodo? Buono. Tragicamente male. Grazie, buona serata, grazie. Prego. Mi dispiace che vada male, speravo che andasse meglio, però questo è il punto di vista di Rocco. Abbiamo Danilo da Pescara, buonasera. Buonasera, salve. Ascolti, io lo chiamo appunto sulla stessa questione del Cocorico. Sì. Volevo dire innanzitutto che sono un ragazzo di 34 anni, quindi fino a 10 anni fa frequentavo i luoghi, anche se sono abruzzese mi trovavo a lavorare nei luoghi in Romagna d'estate, quindi frequentavo il Cocorico come altre discoteche. Sì. Ma in giro per l'Italia e per il mondo, perché sono un amante della bella musica, dell'arte, della scenografia e sono sempre stato appunto in tali luoghi senza usare nessun tipo di queste droghe, mi sono sempre divertito da pazzo. Cioè mai usata una droga, lei frequentava discoteche, ma... no, è un caso. Qualche canna con gli amici, ma sicuramente mai non preso pastiglie. No, mai preso pastiglie. Bravo. Né MDMA né nessun altro tipo di queste droghe sintetiche. Ho solo fumato qualche spinello con gli amici, vabbè, credo che l'abbia fatto chiunque. Ah. Adesso ha smesso di frequentare le discoteche? Guardi, purtroppo sì, non ha messo la testa, hai messo la testa a posto? Vado ancora in discoteca, solo non faccio più 300 km, ecco. Ma magari vai a quella vicino casa, non vai più a fare la grande serata al Cocorico. Vabbè. Ecco, bravissimo. E cosa volevi dire, Danilo? Ecco, però volevo dire che è inutile penalizzare una discoteca, faccio un discorso anche da imprenditore, sicuramente i gestori del luogo avranno dato acconti e fatto investimenti, quindi hanno creato un danno comunque alle persone. Voglio dire che prendere una pasticca si fa in discoteca, sì, però ci si può chiudere in casa e fare cocaina, quindi se uno è propenso a fare questo tipo di attività lo fa in qualsiasi luogo si trova, quindi al bar, al pub beve birra, subriaca, fa un incidente in macchina, quindi può succedere di tutto. Alla base di tutto dovrebbe esserci il buon senso. Grazie, ecco. Buona serata, grazie. Questo è quanto, grazie, grazie. 800 24 0024 traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Abbiamo Flavio che ci chiama da Cremona. Buonasera. Sì, buonasera. Prego, Flavio. Allora, io volevo dire, io ho 37 anni, ero uno di quei ragazzini che negli anni 90 ne ha fatte di tutti i colori. E mi sembra di rivivere le stesse situazioni degli anni 90, dove c'era un'altra discoteca, dove tutti facevano quello che volevano e quando c'è scappato il morto hanno chiuso la discoteca. In realtà io mi vedo come ero ragazzino in quei tempi. Avevo da una parte il mondo degli adulti che mi dicevano stai male, è brutto, dall'altra parte avevo gli altri ragazzi che già lo facevano, che si divertivano, stavano bene, erano contenti. In Italia secondo me bisognerebbe spiegare ai ragazzi cosa vanno a fare, cosa vanno a prendere, non puoi lasciarli allo sbaraglio dicendogli solo non farlo perché fai una brutta fine. Loro vedono i loro compagni che già lo fanno, che invece non stanno facendo una brutta fine, perché all'inizio non fai una brutta fine, ti diverti un sacco. Sì. È proprio così. E lei quando dice che ne ha fatte di ogni, a cosa si riferisce? Che insomma andavo in discoteca e ho fatto le mie, insomma, ecco. Prendendo pastiglie anche? Ma sì, anche sì, e non solo quelle. Ma come si fa a prendere una pastiglia senza sapere chi te la dà, così, sulla fiducia? Ma a quell'età lì non ti interessa tanto sapere la provenienza della cosa, ti interessa solo quello che viene dopo, ti interessa solo l'effetto. E l'effetto qual è? È dopo se non ti piace l'effetto che pensi a chi te l'ha data. E l'effetto atteso qual è? Quello di perdere i freni inibitori, di perdere... Ma è complicato parlarne, perché insomma... Poi si fa un tutt'uno con la musica, le luci, la gente, l'ambiente. Come diceva quello che ha parlato prima, una pastiglia in pizzeria non è la stessa cosa che una pastiglia in discoteca, insomma. No, sicuramente non è la stessa cosa. Io non ho detto che è la stessa cosa, ho detto che non escludo che questo tipo di droghe siano assunte anche fuori dalla discoteca, anzi. No, certo, infatti. Perché no? Ci sono i rave a cui uno va senza bisogno di andare in discoteca. E poi niente, così con l'età, Flavio, a un certo punto hai smesso di fare questo tipo di vita. Sì, fortunatamente non mi sono fritto il cervello e a un certo punto ho preso coscienza che certi ambienti si possono affrontare con un altro spirito, le cose viste lucidamente. Ma adesso ha perso di interesse. Sono un'esperienza anche quella. Ha completamente perso interesse la discoteca, a 37 anni sei ancora giovane, per il fatto che non ti sballi più, oppure la discoteca è interessante lo stesso ancora adesso? Ma a me la musica che fanno adesso in discoteca non piace più tanto, più che altro è quello. Però magari mi ritrovo con qualche amico a ballare la musica dei nostri tempi, diciamo. Va bene, grazie, buona serata, okay, ciao, grazie. Grazie. Ciao. Un tempo mi dice mia nonna, non c'erano tanti motori, nessuno faceva colonna, le strade pigliavano fiori, si andava in città tutti a piedi, qualcuno con la bicicletta, lo so forse tu non ci credi, ma nessuno viveva in fretta. Questo è il sound della città pulita, dove il sole ti scalda la vita. Ecco, abbiamo fatto un salto a 360 gradi, anzi no, a 360 no, saremmo tornati al solito posto, a 180 gradi con questa La città pulita, perché intanto diamo la buonasera al sindaco di Bari, Antonio De Caro. Buonasera, buonasera a voi. Allora, mi aggancio subito all'argomento da cui siamo partiti, la chiusura del Cocoricò stabilita dal questore di Rimini. Lei appoggia una decisione del genere? L'avrebbe, come dire, condivisa nella sua città? Guardi, io ho fatto una cosa simile a Capodanno la sì. sera del, o meglio il 24 dicembre, il 23 dicembre, quindi l'antivigilia di Natale. C'è stato il problema di un pestaggio di un ragazzo sul corso principale della nostra città, è un ragazzo di origini italiane che viveva in Venezuela. C'erano 2000 persone che chiedevano al sindaco come mai c'era stato un pestaggio e se c'erano le telecamere perché non era intervenuta la polizia. Io ho provato a spiegare a quelle 2000 persone che c'erano 4000 telecamere che erano i loro occhi e nessuno aveva denunciato nulla, e quindi ho deciso per la sera di Capodanno di bloccare la vendita di alcolici e la musica all'esterno dei locali, e non è successo assolutamente nulla. Insomma, diciamo che da quel giorno non accade più che sul corso principale della città facciano dei rave party come è successo. Però è stata una cosa come dire, estemporanea, una tantum, non è che adesso non si può più bere. L'ho fatta una tantum e l'ho fatta con, ovviamente, d'accordo con il Comitato Provinciale dell'Ordine Pubblico, quindi sì, con la Questura, con i Carabinieri, con la Guardia di Finanza. Abbiamo fatto i controlli nei giorni fino al 31 di dicembre. Però non pensa anche lei che questa cosa di vietare, di chiudere, di proibire oltre una certa orario non si può più consumare la birra all'aperto, adesso la chiusura del Cocorico, chiaramente c'è stato un morto e quindi è una cosa gravissima quella che è successo, però non è una, non è, esatto, non è come dire la fine della politica, cioè la capacità di governare i problemi dovrebbe essere altro che stabilire le chiusure e i divieti e stop. Ho capito, però la politica in alcuni momenti, chi amministra in particolare, deve dare dei segnali. Ci sono dei segnali che vengono, diciamo, recepiti immediatamente. Quindi è una cosa puramente simbolica, chiamiamolo, cioè si dà un segnale. Il segnale è siamo andati troppo oltre. Siamo andati oltre, quindi adesso ristabiliamo le regole. Anche questa cosa di bere fuori orario diciamo, è un fatto normale. Se però ci sono assembramenti in alcune zone della città e le persone che bevono magari bevono direttamente alle bottiglie, lasciano le bottiglie sulla strada, sui marciapiedi, o come succede nella mia città, li lanciano sugli scogli perché è preferibile bere qualcosa vicino. In quel caso cosa si fa? Contemporaneamente gli assembramenti si trasformano in risse, è chiaro che bisogna intervenire. Ma intervenire come? Vietando alla gente di bere, alla gente che non butta le lattine per terra e non butta il vetro sugli scogli? Cioè vietando a tutti di bere perché qualcuno butta le bottiglie sugli scogli? Se è necessario, per qualche giorno si può vietare di bere. Per esempio, il mio predecessore mi ha lasciato in eredità un'ordinanza che vieta in alcune zone della città la vendita di bevande all'interno di bottiglie dopo le ore 22. Cioè è possibile bere, ma bevi nel bicchiere di plastica, in modo che non dai fastidio a nessuno. No, bere nel bicchiere di plastica mi sembra una cosa che si possa fare e non toglie niente a nessuno. Ma io mi sono sempre chiesto questo, perché invece di vietare, per esempio, di bere dopo una certa ora, perché voi sindaci non autorizzate dei controlli in più, dei vigili in più, un po' di polizia in più, d'accordo con i questori? Perché la polizia municipale non ha competenze sull'ordine pubblico, nel senso che ci sono dei casi in cui se è necessario intervenire perché qualcuno beve vuol dire che fanno delle risse, non lo si può fare. Ma solo i questori con la polizia, sì, quando fate il comitato anche per l'ordine pubblico c'è bisogno del comitato provinciale dell'ordine pubblico, quello lo fate il sindaco, il questore. Il comitato provinciale dell'ordine pubblico, come accade in alcune città, in particolare nella mia, si deve preoccupare della criminalità organizzata, non gli posso chiedere contemporaneamente di occuparsi di criminalità organizzata e di occuparsi anche dei controlli di chi beve in alcune zone della città. E quindi magari per dare un segnale, se il segnale serve, se deve servire soltanto a fare scena, a quel punto non serve a niente. Quindi, io però, uso pochissimo l'ordinanza, credo di averne fatte soltanto o due o tre da quando faccio il sindaco, lo faccio da poco più di un anno. Quindi nella sua città non ci sono in questo momento limiti orari per bere, locali? Sono limiti orari, c'è questo limite oltre le 22 per le bevande in bottiglia, e non ci sono limiti orari. Ho creato delle limitazioni, ma l'ho fatto soltanto nel periodo tra Natale e Capodanno, soltanto per dare un segnale. Devo dire che da quel giorno non è più capitato che hanno messo le cose, sono andate meglio, sono andate decisamente. Senta, noi volevamo chiederle anche che cosa ne pensa dell'appello di Renzi rivolto ai sindaci a lavorare, a rimboccarsi le maniche, a rendere le città pulite e decorose per l'accoglienza turistica. La sua città è una città che al momento ha un problema, per esempio, anche coi rifiuti. Diciamo che sono intervenuto qualche giorno prima di Renzi, nel senso che io ho un problema legato a, all'attività dell'azienda, che è un'azienda comunale che si occupa della pulizia, e contemporaneamente però su alcune zone un comportamento poco virtuoso da parte dei cittadini, in particolare da parte delle attività commerciali che magari utilizzano le buste con il rifiuto indifferenziato, trascinandole sulla pavimentazione delle aree pedonali e creando, diciamo, dei problemi, soprattutto in questo periodo in cui non sta piovendo. Ho chiesto all'azienda dei rifiuti 3 giorni fa, facendo un, diciamo, arrivando inaspettatamente in azienda, di cambiare il programma delle pulizie. Quindi quello che l'aveva lasciato Emiliano non andava bene? Quello che l'aveva lasciato Emiliano non andava bene, come? Non era un problema legato ad Emiliano, anzi Emiliano aveva iniziato un'attività sia sulla pulizia che sulla raccolta differenziata che stiamo cercando di completare. Abbiamo fatto 11 punti in 11 mesi di raccolta differenziata, che è una performance importante, tant'è vero che Lega Ambiente ci ha premiato come comune da tenere d'occhio, una menzione particolare al comune di Bari, e contemporaneamente adesso cambiamo il sistema di pulizia rendendolo più efficiente. Ho autorizzato a ottobre l'acquisto di mezzi meccanici, adesso c'è una spazzatrice con un agevolatore che spara aria compressa e acqua sui marciapiedi e sotto le automobili in modo da raccogliere quanti più rifiuti possibili, poi c'è la spazzatrice centrale che, diciamo, li porta via. Però quindi, l'attività... quindi a Renzi cosa risponderebbe? Ci pensiamo da sole a rimboccarci le maniche, non abbiamo bisogno di rispondere. No, a Renzi rispondo che io sono partito qualche giorno prima, a dire la verità ci siamo scambiati ci siamo scambiati un messaggino ieri su questa questione. Lui sa bene, da sindaco, proprio perché è stato sindaco, che è importante far trovare la città pulita, soprattutto nei confronti dei turisti, perché se poi vogliamo valorizzare il centro storico delle nostre città, quelle che sono le rilevanze storiche, architettoniche, religiose, abbiamo bisogno di far trovare la città pulita. A me è capitato qualche mese fa al Bifest, che è un festival internazionale di cinema della mia città, dove c'erano tante persone che arrivavano da tante parti del mondo, contente per aver visto magari la prima di un film importante, poi sono usciti e c'erano dei sacchetti dalla spazzatura messi fuori orario proprio davanti al Teatro Petruzzelli. Non è una bella figura. È giusto che i sindaci facciano di più attraverso le aziende che si occupano dei rifiuti, è giusto che i cittadini abbiano dei comportamenti. Va bene, devo chiudere. Grazie, De Caro, sindaco di Bari. A dopo, giornale radio 800 24 00 24. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Sorriderà, fatte una pizza e crescere più forte, nessuno più ti fermerà. Dobbiamo invitare molti italiani a visitare il Giappone, non solo Tokyo o Kyoto, ma la straordinaria bellezza di questo paese, ma questi scambi nascono dalla cultura, che è il motore di tutto. Promesso l'ultima volta che lo avrei portato a mangiare una pizza seria e il posto più buono del mondo, sono buonissime le pizzerie italiane in Giappone, ma particolarmente buono è Napoli, per cui una delle prossime volte dobbiamo andare a mangiare una pizza insieme a Napoli. Oggi c'è quel fenomeno di Renzi in Giappone e speriamo che se lo tengano là e apra un baretto di sushi che almeno sarebbe più utile al prossimo. E questo dal Giappone va a dire: i sindaci devono lavorare di più. Magari vai a dirlo a certe latitudini, vai a dirlo a Marino, vai a dirlo a Crocetta, ma i sindaci ci fanno un mazzo così, nonostante lo Stato rubi i soldi ai cittadini. Buonasera di nuovo ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 800 24 00 24 ben ritrovati con Si può fare 18, 20 e 30. La pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24. L'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24. Il mio è chiocciola Ale Maurizi. Allora, insomma, hai sentito Salvini? Non toccate i sindaci. I sindaci si fanno un mazzo così. Ora, non tutti, Salvini, non esageriamo. Però, insomma, il braccio di ferro tra Renzi e i sindaci, ma soprattutto l'invito di Renzi al premier giapponese. Vorrei portarti a mangiare una pizza a Napoli. Insomma, siamo alla solita retorica sull'Italia e la pizza. Bene ha fatto Renzi ad utilizzare questi luoghi comuni, ma insomma il Made in Italy passa anche attraverso la pizza, oppure avrebbe potuto, insomma, cercare di dare un'immagine un tantino più nuova, un po' meno stereotipata dell'Italia in una situazione del genere. 800 24 00 24. Ancora Salvini. Perché dobbiamo essere il punto di smistamento non dei rifugiati, ma dei clandestini di tutto il mondo? Arrivano i norvegesi, i lussemburghesi, i francesi, i tedeschi, gli inglesi e ce li scaricano in Sicilia, in Sardegna, in Puglia. Oh, siamo mica lo zimbello del mondo! Ho parlato anche con uno di questi ragazzi abusivi che è venuto a dirmi: ma perché ce l'hai con noi? Ho detto: io non ce l'ho mica con te, noi vorremmo lavorare. E gli ho detto: ma sai quanti italiani tu stai danneggiando vendendo merce rubata, contraffatta, abusiva, senza pagare una lira di tasse, rompendo le palle al prossimo? Però me la prendo anche con gli italiani che alimentano questo sistema. La chiusura del Cocorico. Vi leggo alcune brevi dichiarazioni su Twitter. Per esempio c'è Bruno Vespa che twitta così: la chiusura del Cocorico di Riccione è un semplice atto di civiltà. Boh, chissà perché. Luca Bizzarri, attore, Genova: c'era un locale con gli spacciatori fuori, chiusero il locale, gli spacciatori rimasero senza caffè, il Cocorico chiuso fa ridere. Oppure Selvaggia Lucarelli che dice: ora che hanno chiuso il Cocorico abbiamo risolto il problema dei giovani che si drogano, chiudiamo i falò così smettono di bere birre. Allora, risentiamo un passaggio di Claudio Coccoluto, DJ Coccoluto, che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, che insomma dice: il fenomeno va governato, chiudere la discoteca in sé per sé non serve a niente, anzi è un errore. Diffido delle medicine che mi dà il mio medico, quindi pensare di buttare giù una cosa e non conoscere la composizione degli effetti è per me terrorizzante. Ancora su Twitter, Saviano che risponde a Renzi sulla questione del mezzogiorno, dopo aver scritto una lettera, dopo i dati Svimez, insomma lo sapete, il mezzogiorno che cresce meno della Grecia, dice Saviano: mi dispiace che possa essere tacciato di piagnisteo, un invito a riflettere sulla crisi del mezzogiorno. Sentiamo però Renzi. Siamo presenti e pensiamo. Sentiamo Renzi. Sì. No, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, Vendola? Cosa ci abbiamo? Cosa ci abbiamo? Vai. Ha ragione Roberto Saviano quando lancia un allarme sulla condizione del Sud, e ha torto Matteo Renzi quando dice: basta con i piagnistei. C'è un Sud che sta morendo, e quel Sud non chiede prediche o battute, chiede politiche per l'occupazione, politiche per lo sviluppo, politiche per la salvaguardia ambientale. Se non ora, quando? Beach on the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancor di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. L'estate qua, you know, per farci innamorare ad ogni età, you know, frenare un poco e poi lasciarsi andare, you know, in fondo sai che quando torni back alla città tutto finirà, mannaggia, ma you know, per ora siamo ancora in summertime, you know. Allora, rientriamo e sentiamo un po' di ascoltatori. 800 24 00 24. Roberto da Parma, buonasera. Ragazzi, stasera in regia state dando i numeri, non c'è neanche Roberto da Parma. Cosa c'è? Cosa abbiamo? Niente. Musica. Una bella polemica estiva è questa qua. Adesso stiamo per andare negli stabilimenti maestrale di Sarzana, dove c'è una lotta per difendere la spiaggia libera, perché sembra che la spiaggia libera di Sarzana, una delle ultime rimaste lì, sia minacciata chissà da che cosa. E allora salutiamo Roberto Aliboni, buonasera, ce l'abbiamo? Buonasera. Uno dei promotori dell'iniziativa Salviamo il Maestrale, che al momento è una pagina Facebook che ha raccolto un migliaio di consensi. Che succede a Liboni, lì a Sarzana? Allora, diciamo che questa pagina è nata da un giovane che, avendo il problema, vivendo a pallavolo con altri compagni, con altri amici, che sono tantissimi, sì, qui a Marinella di Sarzana, che praticano questo sport, vengono anche dalla tua città, da Milano, e l'altro si può giocare nei giorni settimanali. Addio, è caduta la linea. Si sentiva anche malino. Allora, richiamiamo Aliboni, che è il titolare di un chiosco su questo lungomare di Sarzana, sul quale si sta disputando una partita che, insomma, riguarda poi un po' tutti noi, perché chiunque di noi, quando va al mare, poi si chiede sempre: ma ci sarà la spiaggia libera? Qualcuno ci va alla cerca perché non vuole magari spendere i soldi per l'ombrellone, perché non ce l'ha, se lo porta da casa l'ombrellone. C'è chi sta meglio nelle spiagge libere perché c'è più posto, perché ci si gestisce in autonomia e in allegria. Ecco, a Sarzana la spiaggia libera maestrale, dicono che il comune ci voglia mettere sopra qualche cos'altro, insomma, che possa stare per chiudere. E questa è una polemica che, insomma, riguarda molti di noi. Adesso, siccome stasera siamo in tilt in regia, non abbiamo più Aliboni, non abbiamo l'ascoltatore, cosa facciamo? Ce l'abbiamo. Ah, ce l'abbiamo Aliboni, da ridere, da morire da ridere. Buonasera. Buonasera. Adesso la sento... Marinella c'è anche questo. Non ho capito. A Marinella c'è anche questo, che i telefoni non prendono bene. Senta, allora io ho detto così, lì dove siete voi, mi dica se sbaglio, c'è una spiaggia, attualmente una spiaggia libera con dei servizi, tipo per giocare, sì, a beach volley, chioschi, bar, c'è, e quant'altro. Abbiamo un chiosco bar con dei servizi pubblici, dei gabinetti, dei spogliatoi, sì, e della doccia calda. Poi c'è, però la spiaggia è libera, la spiaggia è libera. Sì, la spiaggia è libera, chiunque può venire, sia con la loro attrezzatura che, certo, con il nostro servizio. Come molti apprezzano, come molti amano fare, andare perché si risparmia, e perché... È molto popolata. Ecco, però adesso ci dica Aliboni, qual è il problema? Cosa sta per succedere lì a Sarzana? Qual è la cosa che vi minaccia? Allora, quella che ci minaccia è il nuovo progetto comunale che vuole fare arretrare tutti i chioschi in proprietà privata del Monte dei Paschi di Siena. Noi dobbiamo acquistare il terreno, costruire nel Monte dei Paschi, che diventerà nostro dopo l'acquisto del terreno, però i chioschi invece di 7 diventeranno 15. In poche parole, diventando 15 per la fetta della spiaggia libera, non ci saranno più gli spazi per i campi da pallavolo, per i giochi, per bimbi, per i passatempi, per gli svaghi giornalieri. Ma questo di cui lei mi sta parlando è un progetto, come dire, guidato da chi? Dal comune o dai privati? Dal comune che ha in concessione la concessione demaniale del terreno. Concessione demanio, però vuole uscire con i nostri chioschi comunali dal demanio, sì, e vuole andare in proprietà privata. E questo non capisco il nesso, perché essendo nel demanio dovremmo pagare un affitto al demanio, dovremmo, sì, pagare, sì, il demanio comunale, ci vogliono far acquistare dei terreni all'indietro per andare a spendere dei soldi, a togliere i campi, i passatempi, perché dai 7 chioschi ne diventeranno 15. Sì. Ma lei, quando dice chioschi, cosa intende? Scusi, quando dice chioschi, cosa intende? Bar oppure stabilimenti, proprio balneari? Intendo un chiosco, No, non è un esperimento balneare, è un chiosco. Un chiosco dove abbiamo un chiosco di 80 metri quadri dove serviamo bibite fresche, dove abbiamo dei frigoriferi. Quindi, allora, vediamo se ho capito. Il comune vuole aumentare il numero di chioschi perché probabilmente aumentando il numero delle concessioni incasserebbe di più. Però questo va a detrimento dei servizi. No. Il comune vendendosi al Monte dei Paschi di Siena, facendo diventare un terreno che non vale nulla con 15 chioschi, andrà a incassare 3 milioni di oneri di urbanizzazione e farà incassare 6 milioni al Monte dei Paschi. Vabbè, di fatto c'è preoccupazione a Sarzana, per questo è una vicenda un po' complicata, un po' tecnica, però siccome ogni volta che c'è un appello per una spiaggia libera, non so perché, a me mi si apre il cuore, perché non sono più molte le spiagge libere, è giusto che ci sia anche qualche spiaggia libera ogni tanto, e quindi Aliboni non ci sente più, pazienza, arrivederci, grazie, comunque abbiamo dato il servizio, l'informazione è questa. Ogni volta, dicevo, che c'è un appello per salvare una spiaggia libera, mi sembra giusto darlo, è giusto anche che ci siano i privati laddove ci sono, perché investono, perché offrono dei servizi naturalmente, però siccome le spiagge libere sono sempre di meno, è giusto che ce ne sia qualcuna. Insomma, poi chi magari è della zona di Sarzana e conosce questa vicenda e ci riesce a raccontare meglio di come ha fatto Aliboni, ci può chiamare 800 24 0024. Adesso andiamo in pausa e torniamo tra poco. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, confesso che della vicenda dello stabilimento balneare maestrale di Sarzana non ho capito granché dalle parole del titolare del chiosco Aliboni, perché è stato un po' confuso, insomma. Quindi se c'è qualcuno di Sarzana che conosce questa vicenda, questa spiaggia libera, il maestrale, e ci vuol chiamare 800 24 00 24 per rilanciare questo appello per salvare la spiaggia libera, noi insomma siamo felici e contenti. Andiamo con Nicola, intanto, che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, Nicola. Io non è tanto che, cioè, mi è capitato raramente di ascoltare Radio 24, però ultimamente la sento un po' di più e mi piace molto la professionalità. Bene, continui così. Continui assolutamente così. Però stavolta non ho capito. Sì. Non ho capito a un certo punto, soprattutto non ho capito lei, quando nell'intervento Vitale Rocco, premetto che io non faccio parte né dell'amministrazione dello Stato né tanto meno delle discoteche, lavoro in banca, quindi c'ho però una minima, quantomeno minima preparazione giuridica, perché immediatamente sono laureato in giurisprudenza e facevo l'avvocato, insomma. E una cosa che non ho compreso è questa: quando l'esperto di discoteche le ha in qualche modo rappresentato. Nicola, ma lei sta lavando i piatti, cosa sta facendo? No, mi scusi, sto camminando. Mi avete beccato mentre sono sceso dalla macchina. Ah, vabbè, no, tranquillo, quindi... tranquillo, prego. Allora, via, un esperto di discoteca ha fatto un discorso molto ragionevole, perché ha detto: considerate che, se non vogliamo essere ipocriti, le discoteche sono fatte in modo tale per sollecitare un certo tipo di atteggiamenti. E voi gli avete risposto in qualche modo. Ma che tipo di atteggiamenti, però? Perché dobbiamo essere precisi a dire. Perché si lascia sennò intendere che tutti quelli che entrano nelle discoteche si drogano. No, non questo, è così. Questo è ovvio che generalizzare, allora, però mi perdoni, finisco il concetto. Generalizzare è sempre sbagliato. Quindi dire che tutti quelli che entrano in discoteca si impasticcano mi sembra assurdo. Però pure mettendola sempre in politica, come avete in qualche modo risposto voi, dicendo la politica deve. Premesso che io non sono per nulla affezionato alla politica italiana, però mi chiedevo, no? Facevo un ragionamento assolutamente logico. Sì, arrivi al punto, però. Qui è entrato dentro una discoteca una persona che aveva meno di 18 anni. Non conosco la normativa, però immagino, da quello anche che avete detto anticipato voi, che esista una normativa che dice che sotto a 18 anni non si può entrare. Ora, chi è il responsabile di verificare se entra o meno un minore di 18 anni all'interno di una discoteca? È chiaramente la discoteca stessa, nell'ambito dei suoi progetti di sicurezza e comunque nell'ambito del suo titolare. Mi sembra di aver capito che è entrato in una discoteca, nel particolare il Cocorico. Io ho scoperto questa storia sentendo voi, perché comunque non l'avevo, forse per mia colpa, non l'avevo verificata. È entrato all'interno del Cocorico un minorenne. Questo minorenne mi sembra che abbia fatto pure una brutta fine. Mi sembra palese che un'amministrazione pubblica che viene a conoscenza di una circostanza di questo fatto debba intervenire. E quindi mi sembra di aver capito che il questore è intervenuto chiudendo la discoteca. Mi spiega lei, che sicuramente ne capisce più di me, dove sta sto scandalo? Dato che se c'è una legge che prevede che non si debbano, perché non mi pare una cosa molto difficile vedere un documento di un minorenne per farle entrare, e quando li parlava Rocco gli diceva: guardate che ci ho lavorato, questi non controllano perché gli conviene far entrare più gente possibile. Quindi c'è sta una discoteca, chiunque sia, io non me ne intendo, non ci andavo manco a 20 anni, figuriamoci a 47, però c'è una discoteca che deve controllare chi entra, non lo fa in maniera grave, perché poi ci rimette anche la vita della persona. Potremmo dire che dovremmo verificare prima, che potremmo fare cose preventive, possiamo dire tutto, però se c'è una discoteca che deve verificare e non verifica, che venga chiusa, come fa lei, non è in tutto questo, ma perché non me dobbiamo essere tutti d'accordo, le stesse cose. Però mi spiego, io ho detto, lei non è d'accordo. L'ho già spiegato prima, ho detto che chi è responsabile di controllare l'applicazione delle norme, il questore, è questo che lei sbaglia, perché chi... non è il questore. È così perché si tollera sempre, in Italia si tollera tutto, salvo poi dopo quando succede un fatto drammatico. Lo ha detto prima De Caro, lo ha detto prima il sindaco di Bari. Io non posso chiedere alla questura di controllare gli schiamazzi notturni, la gente che si spacca bottiglie sugli scogli, perché non ci sono abbastanza forze dell'ordine. Quindi devo rinunciare a questo e allora metto un'ordinanza che vieta a tutti. Io dico semplicemente che questo è sbagliato e che secondo me bisognerebbe far invece investire in più auto della polizia la sera, per esempio sul lungomare di Bari, controllare quello che succede ed evitare che succeda il fattaccio, ma non vietare a tutti di bere la birra. Lo stesso discorso vale per le discoteche, perché i controlli li puoi mettere anche all'ingresso delle discoteche. Non è che stiamo in una giurisdizione, non è che stiamo nello Stato del Vaticano. Se io metto due poliziotti davanti a una discoteca, mi spiega lei chi è che me lo impedisce? Però Radio 24 non può dire una cosa del genere, mi perdoni, perché se fosse una radio qualunque, Radio 24 può dire tutto quello che crede di poter dire. Ma non è tecnica, io nel Sole 24 Ore compravo le riviste giuridiche, sì, vabbè, cioè, parliamo tecnicamente. Se ne faccia una ragione di quello che ho detto. Lei ha detto la sua, io ho detto la mia, e andiamo avanti così. Sì. Mi faccia dire l'ultima cosa. Allora, i tabaccai non possono vendere ai minorenni. Mettiamo un poliziotto ogni tabaccheria. Che stiamo dicendo? Cioè, per entrare in una discoteca, chi controlla? È quello della discoteca. Non ci devono stare due poliziotti. Non è il questore che deve controllare che sia rispettata quella norma. Ma chi è l'oggetto? Ma guardi, il Cocorico non l'hanno chiuso perché è entrato un minorenne. Il Cocorico è chiuso perché è morto un ragazzo. E perché c'è la droga che entra e esce. Per quello. Non per quella questione che dice lei, ha capito? Quindi non è questione di controllo. Che era minorenne e che non doveva essere lì. Ci pensi, è importante, è un argomento fondamentale nell'ambito di un provvedimento poi amministrativo. Va bene, grazie. Arrivederla, buona giornata. Buonasera. Alessandro da Roma, sì. Sentiamo un po'. Sì, pronto? Prego. Sì. Allora, niente, io volevo dire che, io per parecchio tempo sono andato proprio al Cocorico, io sono di Roma, ma insomma ho 43 anni e per me era la discoteca simbolo, diciamo. Io conosco anche gli sforzi che la nuova amministrazione di Riccione, andandoci dal 74 comunque in vacanza e poi anche d'inverno, conosco anche gli sforzi che l'amministrazione sta facendo per cercare di cambiare questa idea che si ha di Riccione. Sì. Io volevo dire innanzitutto che l'idea di Riccione è già cambiata, nel senso che oramai è diventato un posto per famiglie. Il discorso delle discoteche, il Cocorico, che prima era una delle discoteche più famose del mondo, non d'Italia, beh, adesso è al 14° posto. Sì. Quindi, mentre invece in Spagna le discoteche sono esplose, si sa benissimo i beat e via dicendo. Ora, io non credo per esempio che in Spagna nessuno faccia la chiusura della discoteca perché un ragazzo muore durante una serata. Cioè, il discorso secondo me è da fare un altro, bisognerebbe creare una coscienza maggiore nei ragazzi. Questo naturalmente ha bisogno di fondi da parte dello Stato. Questo sicuramente, l'ha detto anche Claudio Cocoluto, io sono d'accordo, per esempio anche con un po' di informazione, sarà banale, no? Ma un po' di informazione sull'uso delle droghe, non bisogna avere paura di parlarne e di spiegare a cosa si va incontro, per esempio assumendo una pastiglia, no? Questo io penso, sono assolutamente d'accordo. Dicendo che pochi giorni fa è stato fatto un disegno di legge per la liberalizzazione delle droghe leggere, sì. Col quale io sono completamente d'accordo, dato che per esempio in Olanda fanno rave, fanno tutto all'aria aperta, io ho visto di persona genitori che portavano i bambini a questi rave, non succedono fatti, diciamo, chiamiamoli di sangue, comunque fatti violenti, la gente è tutta quanta molto sorridente, poi probabilmente farà anche uso di stupefacenti, però è un modo diverso di farlo. Cioè, io quello che dico è che in Italia non si ha la cognizione, il modo di divertirsi è un po' alterato sempre da mille costrizioni, senza mai avere di riscontro un qualcosa di positivo. Cioè, io voglio dire, in Olanda loro sono riusciti, con i soldi che lo Stato incassa, una parte viene destinato a delle campagne di sensibilizzazione sulle droghe pesanti, vengono aiutate le comunità e tutto questo. In Italia tutto questo non esiste. Certo, legalizzando, allora, certo, legalizzando una parte degli introiti potrebbero essere usati per quello, sì. Certo, sì. Certo, come si pretende che un giovane possa capire certe dinamiche se poi è tutto quanto vietato? Sappiamo bene che l'età che hanno un ragazzo, all'età di 16 anni un ragazzo ha voglia naturalmente di evadere, di essere sopra. Va bene, va bene, va bene. Grazie Alessandro, ecco, abbiamo capito. Niente, grazie. Arrivederci. Buona serata. Roberto dalla provincia di Ancona. Roberto? Non c'è. Sì, c'è. Roberto? Sì? C'è Roberto? Pronto? Roberto, mi sente? No, sono Roberto da Parma. Va bene, Roberto sì. Da Parma. Stasera non ne brocchiamo una. C'era anche Roberto d'Ancona e hanno messo su Roberto da Parma. Prego. No, anche io volevo partecipare, volevo per la discoteca Cocorico, sì. No? Sì. Secondo me, anche secondo me il gestore fa un po' la verginella, diciamo. Che comunque queste discoteche sono anch'io coetaneo di quelli che hanno chiamato fa, comunque questa. Anche lei è un frequentatore in passato di discoteche? Un frequentatore pentito di discoteche? Sì. No, però ai tempi li giravamo tutti. Ne avevamo anche il Number One, che è un'altra discoteca che è stata chiusa, sì. Però quando tu andavi al Number One, al sabato sapevi cosa c'era. E cosa c'era? C'era il Mercatini, ad esempio, tu quando entravi c'erano già la gente che spacciava lì. Cioè dentro la discoteca c'è gente che spaccia? No, dico, dentro la discoteca c'è gente che spaccia? Questo sta dicendo lei? Ma no, erano fuori. Erano fuori o erano dentro? Cioè, erano fuori, tu arrivavi, c'erano i baracchini, ti dicevano cosa vuoi. Quindi secondo lei è giusto chiudere il Cocorico, per esempio? Allora, no, il discorso è questo, il business del Cocorico, sì. È di certa gente che sapeva anche quando andava al Cocorico. Ma mi dica allora se in base al suo ragionamento la sua conclusione qual è? È giusto chiudere il Cocorico definitivamente, temporaneamente? Il gestore in realtà, sì, ha messo le telecamere, ha fatto tutto, dice ho fatto tutti gli accorgimenti perché ciò non accadesse, in realtà sa benissimo che accade lì. Quindi che lei, conclusione del suo ragionamento, è giusto chiudere il Cocorico? No, mi risponde su questo, è giusto chiudere? Secondo me sì, perché il gestore comunque lo sapeva che quello che succedeva. Però chiuderlo definitivamente. Le faccio un esempio. Mi risponde, chiuderlo sì, temporaneamente, no, temporaneamente o definitivamente? Cioè, vista la situazione, no, va chiuso per sempre. Temporaneamente. Finché non succede che cosa? Finché non succede quello che è successo in discoteche più piccole delle mie parti. Cioè? In cui praticamente si sapeva la gente che era la stessa che magari andava al Cocorico e si calava. Cosa avevano fatto? Hanno messo due pattuglie dei carabinieri all'uscita della discoteca e facevano a campione. Lo vedi che si arriva a quello che dico io. Grazie, buona serata. Riccardo da Roma. Sì, ci vogliono i controlli, non c'è niente buonasera, da fare. Prego. Sì. Torniamo alla pizza di Renzi. Ah, sì. Sì, perché poche cose, perché alla fine di talcementi va ai tedeschi, altre grandi industrie, pezzi di tecnologia pregiata d'Italia sono andati fuori e noi siamo ancora pizza, spaghetti e mandolino, ma lui a questo ci sta bene, perché è così che ci vuole vedere una certa Europa. Guardi, se Tsipras avesse avuto Ansaldo, Preda, Ilva e i talcementi, la Grecia sarebbe uscita dall'euro. Non può uscire perché non si può sostenere un'economia e un debito con i calamari, le olive e la feta. L'Italia fino a poco tempo fa, ma non dico che bisognava uscire per forza, però avere le chiavi di casa per andarsene è sempre una cosa bella. Oggi piano piano, prima ci hanno levato quelle della posta, poi quelle del portone, adesso quelle dell'uscio di casa, per cui un giorno volendo dire me ne vado dall'euro, non è che non te lo viene, non puoi più tu. Ti trattengono. Ma è ovvio, ti trattengono avendoti spogliato dei meccanismi di produzione del valore economico. E allora è inutile che vai in Giappone, perché il giapponese verrà. Se noi fossimo mangiare... fuori dall'euro, secondo lei potremmo essere meno pizza e più che cosa? No, se noi avessimo conservato la nostra struttura produttiva. Ma questo dipende tutto, è colpa tutta dell'euro? No, non è colpa dell'euro. Colpa, colpa anche della competizione internazionale. No, colpa la di competizione cosa? Internazionale è ovvio, ma non è detto che tu un paese non puoi difenderlo e non puoi difendere il tuo tessuto. Il fatto grave è che ormai vai a vendere solo la pizza. Expo non è altro che una vetrina per dire compratevi pure l'eccellenza dell'agroalimentare. Vabbè, sì, questo, insomma, è questo è anche qualcosa. Lei che lavoro fa? Glielo posso chiedere? Di cosa si occupa? Insegno all'università. Cosa? Diritto commerciale. Ah, vabbè. Grazie, buona serata. Arrivederci. Dobbiamo essere il punto di smistamento non dei rifugiati, ma dei clandestini di tutto il mondo. Arrivano i norvegesi, i lussemburghesi, i francesi, i tedeschi, gli inglesi e ce li scaricano in Sicilia, in Sardegna, in Puglia. Oh, siamo mica lo zimbello del mondo! Non ditelo al sindaco di Bore, Fausto Ralli, non diteli che gli italiani non vogliono gli immigrati o anche i profughi. Buonasera, sindaco. Buonasera a lei. Perché voi dei profughi avete fatto, come dire, una degli immigrati, una piccola, piccola risorsa, perché siamo in un comune di 800 circa abitanti, è vero? Esatto. Ci troviamo dove? In una zona un po' impervia? Ma oddio, siamo alta collina in provincia di Parma. Insomma, qua, Appennino quasi. Sì, certo. Dico impervia perché comunque è una zona che si è un po' spopolata negli anni. Sicuramente sì. Quanti abitanti eravate, che so, 20 anni fa? Eravamo circa 2000 abitanti e pian piano, insomma... Meno della metà adesso, sì. Non è sì, poco. Meno della metà. E quest'anno succederà che riuscite a non chiudere la scuola, forse, sì. Grazie a che cosa? Ci spieghi lei? Sì, grazie al fatto che dopo una richiesta della prefettura e dopo aver avuto un colloquio col prefetto... Sì. Rispetto al problema dell'ospitabilità, che è ovviamente un problema contingente, credo, ormai sulla nostra penisola, e abbiamo inoltrato un'istanza specifica, dicendo appunto che ritenevamo utile aderire al progetto, perché credo che in modo... Al progetto di dare ospitalità ai migranti. Ospitalità, esatto, ai profughi. Ma che era necessario orientare questa ospitalità a delle famiglie con dei bambini piccoli. Dice, se possiamo scegliere, esatto, mandateci qualcuno con bimbi piccoli. Perché? Perché ci stiamo trovando in difficoltà con la materna, che ovviamente la materna e poi la porta d'accesso al resto della scuola, no? Perché avete pochi iscritti. Quanti iscritti ci sono alla scuola materna di Bore? Alla scuola materna abbiamo 5 iscritti. Compresi i due cittadini stranieri? No, solo i nostri ragazzi cittadini di Bore. E 5 ovviamente... non, scusi, non basterebbero, sì, per avere. No, diritto. Purtroppo no, perché le regole. Quant'è il numero minimo? Che sono ferre, devono essere attorno alle 10 persone. E abbiamo ricevuto comunicazione dal, sì, provveditorato che praticamente non avremmo più avuto diritto ad avere la scuola materna. Delusione grossa, perché insomma, certo, perdere la materna significa dopo qualche anno perdere tutto. Esatto. E anche dover fare un viaggio, non so di quanto tempo, per andare alla più vicina scuola materna? Ah beh, viaggio più vicino, sono 16 km di montagna e quindi lei consideri che la montagna ha un inverno lungo, no? Che comincia ad ottobre. Ghiacciano le strade d'inverno, per esempio? Sì, tanto. Perché 16 km uno potrebbe dire non sono molti, 16 km non li può fare. Per andare. Però se in altre realtà sì, bisogna alzarsi alle 5:30 del mattino. Se sono tornanti di montagna col ghiaccio d'inverno è un altro discorso. E quindi avete fatto questa richiesta al prefetto, avete detto mandateceli purché abbiano figli, e è andata a buon fine questa cosa? Sì, è andata a buon fine. Sono arrivate 10 giorni fa due famiglie, con una con 3 figli e l'altra con 2 figli in età scolare, tra l'altro sono bambini 3, 4, 5 anni, quindi proprio l'età sembra fatta apposta, insomma l'età giusta. E siete arrivati a 10? Siete arrivati a 10? Arriviamo a 10. Meno male. E così, insomma, almeno per quest'anno scolastico tamponiamo il problema, poi vedremo, insomma. È difficile fare progetti per il futuro, insomma, però insomma viviamo un po' il momento e ci garantiamo questa cosa. Tra l'altro famiglie che si stanno comportando benissimo. Di che nazionalità sono queste famiglie? Una famiglia è nigeriana e l'altra è congolese. E sono richiedenti diritto asilo, profughi veri e propri o migranti? Diciamo, no, almeno per quello che sappiamo, perché adesso siamo in fase di insomma, l'istruttura, la questura, eccetera, eccetera, sono in fase di accertamento. Noi sappiamo, ci è stato detto che sono profughi, insomma. Al momento vi è stato detto che hanno questo status. Per quanto riguarda tutte le altre necessità di queste persone, perché insomma dal lato della scuola è una buona notizia, riuscite ad aprire la scuola materna e andare avanti a bore con il progetto scolastico di scuola pubblica. Per tutte le altre necessità, lavoro, abitazione di queste persone, si sono creati dei problemi o tutto è filato liscio? Guardi, per quanto riguarda l'accoglienza abbiamo ospitato queste 2 famiglie in strutture comunali, quindi avevamo 2 unità abitative a disposizione e lì le abbiamo alloggiate. Per quanto riguarda l'impatto con la cittadinanza direi che è assolutamente positivo, per il momento ovviamente c'è sempre quella parte che ha un suo concetto, però credo che la stragrande maggioranza, ma questo glielo dico, immagino i nigeriani che sono finiti sull'Appennino di Parma saranno un po', guardi, semi disorientati, ma non più di tanto, sa? Aspetti che arrivi l'inverno e poi vediamo. Senta, certo, ma da parte è una battuta, da parte degli altri suoi concittadini c'è stato qualche discorso di disapprovazione, qualche lamentela? Sa che in questo periodo la presenza dei profughi non sempre genera, diciamo, discorsi lisci, tanto per andare con un eufemismo. Problemi ce ne sono? Certo, no, direttamente non ho accolto niente, anzi ho accolto degli aspetti positivi e ne racconto uno per tutti. Al di là della quantità anche di vestiario che mi sta arrivando, eccetera, per così insomma creare un minimo di corredo a queste persone, sia per i bambini che per gli adulti. Stamattina ero in giro, mi hanno chiamato dal comune dicendo che una persona è andata in un negozio, ha fatto una donazione piuttosto importante in termini economici e ovviamente nell'anonimato, ma è bello anche questo, anzi è ancora più carino insomma il fatto di non mettersi in evidenza, ha lasciato una donazione importante perché ulteriormente venissero acquistate e venissero messe a disposizione indumenti per scarpe, queste persone. Quindi c'è un concittadino di Bore, diciamo, che generosamente ha voluto dare una mano. Non lo so se di Bore, diciamo che comunque era Bore. Tenga conto che Bore è un paese che fa villeggiatura d'estate e andiamo a 2500 abitanti. Ah, quindi d'estate vi rianimate proprio alla grande. Senta, lei cosa sente dire, non so, ad altri sindaci, ad altri amministratori su questa questione che sta facendo un po' andare in fibrillazione prefetti, politici, ministri, sindaci della gestione dei profughi? Cioè il modello Bore potrebbe essere di interesse per tante altre piccole cittadine, quindi diciamo uno smistamento proprio in periferia, diluire e diminuire il problema, oppure voi siete un caso isolato, eccezionale e particolarissimo? Ma guardi, per quello che so dei comuni contermini che ho qui vicino ci sono presenze di emigranti, di profughi numero variegato, un po' dico sicuramente che nel nostro territorio probabilmente sta venendo avanti un progetto ben dosato, cioè le piccole realtà non ci sono numeri importanti, ovviamente quando i numeri sono giusti, sì, sono meglio tollerati, sono meglio, è più possibile l'inserimento. Quindi direi che c'è una buona filosofia da parte. Funziona, lì da voi funziona. Quindi lei più che mandare messaggi in giro, diciamo, dice noi qui siamo riusciti a farlo, e complimenti. Certo, certo. L'altra cosa, l'ultima che le voglio chiedere è questa: si discute se dare per esempio degli incentivi ai comuni che ospitano i profughi, incentivi economici, incentivi insomma di genere economici. Ora voi non ne avete avuto bisogno, non ne avete chiesti, anzi, però mi dice lei, magari arrivassero. Ma guardi, noi abbiamo comunque una diaria che viene messa a disposizione. Sì. No, ma oltre quella. Ma non ne vedo, guardi. Non ne vede la necessità. Madonna mia, ma lei è Fausto Ralli, sindaco di Bola, dovrebbe essere tutti come lei. Ospita i profughi, non chiede niente in cambio, anzi ne vuole di più. E... Non passi questa cosa. Guardi, quando io ho dialogato su questa vicenda ho cercato di di aderire a questo concetto di ospitalità, sì, in un numero che fosse adeguato e sì, vabbè, consono alla sua cittadina, figuriamoci. No, ma adesso io stavo scherzando, stavo dicendo che lei si è comportata in maniera molto tranquilla su una cosa che invece sta mandando in fibrillazione tante situazioni a livello politico nazionale. Invece il vostro è un piccolo caso felice, troppo piccolo, perché insomma, se fosse così per tutta Italia, lo ripeto, avremmo risolto il problema dei profughi. Complimenti, grazie, in bocca al lupo per la vostra comunità. A presto, buona serata. Antonio da Bologna. Antonio, prego. Sì, ma niente, io seguivo la trasmissione in macchina e volevo aggiungere qualche considerazione sulla vicenda del Cocorico. Sì. Noi abbiamo un'attività a Bologna, niente a che vedere in termini di dimensioni con la discoteca in questione, un locale molto dimensioni molto modeste, dove però organizziamo spesso delle feste di compleanno. In particolare i festeggiamenti per il 17° compleanno. Sì. Scusi Antonio, la sentiamo male, andiamo in pausa, poi vediamo di recuperare meglio il collegamento. Una pausa, tra poco. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Di nuovo buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Andiamo con l'intervento di Filippo che ci chiama da Verona. Sì, buonasera. Ciao Filippo. Allora, io volevo intervenire in merito alla vicenda lì della chiusura della discoteca del Cocorico. Sì. Io ho 43 anni e ho frequentato anche qualche volta il Cocorico. E una cosa che mi trovo un po' perplesso è che quando eravamo ventenni e si entrava in queste discoteche, chissà perché tutti sapevano dove andare a cercare queste, diciamo, sostanze stupefacenti, cioè le pasticche, canne e così via. Ecco, se dei ragazzi di vent'anni che frequentavano saltuariamente come me le discoteche facilmente accedevano a queste informazioni e facilmente riuscivano a procurare, mi chiedo io perché altrettanto facilmente le autorità o lo stesso anche i gestori delle discoteche non utilizzano, ecco, o non intervengono in tal senso per prevenire a monte, come diceva lei. Giustissimo. Allora, non credo che la chiusura di una discoteca sia una soluzione a questo problema che è chiaramente diffuso. Ma no, non è una soluzione, è un palliativo, oppure come diceva il sindaco di Bari De Caro, è una questione simbolica, si dà un messaggio. Bravo, esattamente, ecco, è simbolico. Allora, siccome però non serve, serve a poco, però serve a poco. Ma sicuramente serve a poco. Allora, altrettanto come diceva Coccoluto, bisogna ricercare di risalire quella fiera che, come ripeto, io con la mia poca frequentazione di discoteca accedevo facilmente, senza nessun problema. Come è possibile che non si riesca a interromperla? Quindi in qualche maniera di sicuro i gestori del Cocorico si trovano un po' vittime, ecco, in questo caso. Però il gestore, mi chiedo io, possibile che non riesca proprio ad avere nessuno strumento per voler tenere pulito il proprio locale? Ma perché poi, il questore è una discoteca enorme come il Cocorico, e il questore non può mettere, come diceva l'ascoltatore che ha chiamato prima, due carabinieri che passano ogni tanto. Esattamente, e guardi, di discoteche, e chi ha la mia età, ho 43 anni, per cui ecco, immagino che ce ne siano tante anche dei miei amici e dei miei coetanei, le discoteche pulite si sapeva quali erano. Non c'era bisogno di anche tanta informazione. Si sa benissimo, l'informazione gira molto facilmente tra i giovani. Va bene, grazie, buona serata. Grazie. Andiamo a lei. Con Mirko da Roma. Mirko, buonasera. Mirko? Non c'è. Stasera non ne imbrocchiamo una, eh? Non so che succede. Tra qua e là, tra questa parte e quell'altra del vetro. Marco dalla provincia di Lucca. Pronto? Marco, buonasera. Pronto? Buonasera a tutti gli ascoltatori. Prego, volevo Marco. Intervenire anch'io sulla questione del Cocorico. Sì. Sì, io sento che si può fare tanti discorsi sugli appunti al questore, al gestore, ha ragione bene il telespettatore di prima, sì, se uno va in una discoteca sa dove andare, se vuole fare determinate cose, se vuole ballare va per ballare, se vuole fare altre cose sa dove andare, sa quale discoteca andare. Il problema per me è un altro, il problema è che mio figlio a 16 anni non va a festeggiare la promozione al Cocorico. Sarò un genitore all'antica e purtroppo mi scontro con tantissime realtà, ho una figlia di 14 anni, ma per me andare a 16 anni in discoteca... Lei riesce a 14 anni sua figlia a governare dove si reca lei la sera, a 14 anni forse non esce neanche la sera. Esce poco, ma esce, va visto la passeggiata a Viareggio alle Vita Maiore e diciamo non è controllata. Le volte che è andata in locali disco pub con noi genitori, sì, però, a distanza ravvicinata. Sì. Quando sua figlia avrà 16 anni, lei crede che riuscirà a impedirle di andare in una discoteca? Io sto cercando di abituarla, ma no, non ad andare in discoteca. Andare in discoteca cercherò di non mandarcela io, perché anche se mi rendo conto che se è da sola nel gruppo, sì, e altri 18 ci vanno, non è facile. Cercherò di oppormi in maniera forte e sto cercando di educarla in un determinato modo. Beh, certo, pretendere di sapere dove vanno i figli, anche se poi vanno, mi sembra quantomeno legittimo. Finché uno è minorenne ed è sotto il controllo dei genitori, è chiaro che deve dire. Poi può dire una balla, però lei dice: io intanto le dico che a 16 anni al Cocorico a festeggiare non ci vai. Non ci vai, punto. Poi può dire così, può dire anche una balla, poi però torna a casa. Certo. Dopo, prima di rivedere la discoteca, passa parecchio tempo. Io lo dico, io mi trovo in difficoltà. Non teme però che proibendo poi invece si generi la voglia? No, perché non è una proibizione assoluta, è una proibizione, io penso, di farla in maniera costruttiva. Nel senso, non ti ci mando, non perché non ti ci voglio mandare, ma perché... Non che non mi fido di te, ma perché c'è questo pericolo. Sì. Io mi fido di lei, però purtroppo non mi fido più del mondo che ci circonda, che la può circondare in discoteca, che la può circondare a giro. Va bene, poi comunque siamo arrivati in questo. Poi comunque grazie Marco per aver chiamato. È giusto che ci sia una trattativa tra genitori e figli minorenni su dove si va, cosa si fa, ci mancherebbe altro, mica può essere concesso tutto così, non è questo appunto. Giovanni da Isernia, buonasera. Buonasera, io vorrei intervenire per rispondere a quel sindaco che è intervenuto prima per quanto riguarda la scuola da salvare. Sì, il sindaco di Bore nell'Appennino, sì, emiliano. Sì. Sì, prego. Io chiamo da una regione piccolissima, il Molise, dove su 130-140 comuni o 300 non raggiungono i 1000 abitanti, tutti sparsi sugli Appennini, spopolamento e via, sì, dicendo. Ecco, seguendo il ragionamento di quel sindaco, noi nel Molise, per risollevare e salvare qualche scuola, potremmo accogliere migliaia e migliaia di famiglie di immigrati. Sì. Sì. No, guardi, non è il ragionamento del sindaco, sono io che ho fatto il ragionamento e ho detto che se gli ho chiesto se potrebbe essere un modello. Il sindaco non gliene frega nulla del modello, voleva solo che non chiudesse la sua scuola materna, e aveva solo quello strumento lì. Dopodiché, e lei può dire che non è d'accordo, però va giudicato per quello, non per discorsi più in generale. No, no, ma io volevo fare, se noi espandiamo l'esempio all'Italia, potremmo accogliere tutti i 100.000 rifugiati che sono venuti per salvare qualche scuola. E nel Molise noi potremmo risollevare tutti quei centinaio di paesi per fare aprire scuole. Però in alcuni casi non sarebbe così negativo, se grazie a qualche immigrato che comunque arrivano, perché quelli stanno comunque arrivando, se grazie a qualche immigrato qualche borgo, qualche piccolo paesino che si sta spopolando si ripopolasse, sarebbe così negativo? Non stiamo parlando di uno o due, io sto parlando di una piccola regione, sono centinaia di comuni. Ma sarebbe, e questa è una cosa positiva, i paesi che si spopolano, l'Italia che ha allora il calo demografico. Dovremmo andare via noi. Perché ma che c'entra? Prendiamo Bore, prendiamo il caso di Bore. Bore è un paesino con 800 abitanti, di cui la struttura anagrafica dell'Italia, lei la conosce meglio di me, la metà saranno persone di una certa età. Non ci sono più bambini. Ok. Va bene, ma per salvare una scuola poi avremo altre decine di problemi, perché i bambini avranno bisogno di assistenza sociale, avranno bisogno di medici, avranno bisogno... Cioè, noi ne risolviamo una e ne creiamo 10. Questo è possibile, questo che dice lei è possibile, tant'è vero che gliel'ho chiesto al sindaco se si sono create altri problemi. Per ora lui ha risposto di no, ma insomma il dubbio è legittimo da questo punto di vista. Ho capito, sì, perché lui ha... due famiglie ha ospitato, ma io piccoli numeri, più 4.000 non arrivano a 1.000 abitanti, io penso, no? Allora potremmo ospitare tutta l'Africa, così oltre alla esagerato, mamma mia Giovanni, no, ma perché per dire, di una scuola con cinque bambini adesso è arrivato a ospitare tutta l'Africa, cinque, la Madonna. No, cinque bambini moltiplichi per 4.000 comuni che sono in Italia, veda lei quanto fa. Nel Molise potremmo avere paesi che oltre a salvare la scuola materna, 5 bambini per anche l'università, perché ne potremmo accogliere talmente tanti che ne apriremo l'università. 5 bambini per quanti comuni ha detto che ci sono? Ma io in Italia sono 8.000 comuni, io non so, penso che la metà sia, no, su tutti quelli degli Appennini pochissimi arrivano oltre 1.000 abitanti. Quanti? Facciamo il caso. Vabbè, io non lo so. Mettiamo 10.000 comuni? 5 bambini, quanto fa? 50.000? Cos'è tutta l'Africa? Tutta l'Africa questo? Ma no, cosa sta dicendo? 50.000 sono esattamente quelli che arrivano in un anno. Anche, no, la metà di quelli che arrivano in un anno li possiamo sistemare subito, senza problemi. E allora, lo sta dicendo anche lei, ma scusi, ma che c'entra tutta l'Africa? Scusi, Giovanni, non ho capito il suo ragionamento. Cioè, lei si è fregato da solo con i numeri. No, ho fatto un esempio per dire che così possiamo salvare, oltre che la scuola materna, la scuola media, la scuola superiore, mettere anche l'università. E quindi abbiamo risolto il problema. Io penso di sì. Lei pensa di no, ma facendo l'esempio, secondo me si è fatto male da solo. Giovanni, che dire? Vabbè, comunque. Il dubbio è legittimo, no? Che poi si possano creare degli altri problemi, è ovvio. Infatti abbiamo chiesto al sindaco, la risposta è stata no al momento. Ci ritorniamo tra 5 anni e gli chiediamo com'è andata a finire. Avete pazienza, 5 anni? 800 24 00 24. Titoli, la 7. Listini in profondo rosso, la borsa di Atene che riapriva dopo 5 settimane, apertura sciocca, meno 23%, poi leggera risalita, chiusura, meno 16. Positivi tutti gli altri mercati europei che non risentono del crollo greco. Tsipras accelera le trattative con la Troica per il varo del terzo piano di aiuti. Il 20 di Atene dovrà restituire il prestito della BCE da oltre 3 miliardi. Nuova tragedia dell'immigrazione, un migrante marocchino è morto soffocato in una valigia nel bagagliaio di un'auto mentre tentava di entrare in Spagna dall'Africa. Nuovi sbarchi intanto anche in Sicilia, Francia e Gran Bretagna sono alle prese con l'assedio invece all'Eurotunnel, adesso chiedono l'intervento dell'Europa, è un problema di tutti, dicono. Barack Obama autorizza i raid contro i miliziani del califfato sul territorio siriano, anche per proteggere i ribelli al regime di Assad che combattono contro l'ISIS. Ma è scontro con Mosca che commenta, così si indebolisce Damasco favorendo i jihadisti. Domani la commissione di vigilanza RAI dovrà nominare 7 esponenti su 9 del nuovo CDA. Il governo stringe sui nomi per la presidenza e la direzione generale, che potrebbero essere però motivo di nuovo scontro all'interno dello stesso PD. Saviano, dopo aver esortato il premier Renzi a mettere al centro il problema del mezzogiorno, risponde al basta piagnistei del premier e dice: mi addolora che parli così. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con i vostri interventi. Abbiamo Paolo che ci chiama da Firenze. Buonasera Paolo. Buonasera a lei. Senti, io volevo intervenire per quanto riguarda quel sindaco di quel paesino Parmense, no? Sì. Che ha chiesto aiuto alla magistratura per avere degli extracomunitari per poter non far chiudere la scuola. Ma mi domando una cosa. Ha provato però a chiedere, invece che degli extracomunitari, di mandare dei sindaci italiani che non hanno più un lavoro e che hanno dei figli, dove gli ha detto che gli daranno, ho capito, hanno 2 abitazioni, no, libere lì, sì, di cui non pagheranno né luce né acqua, perché ovviamente saranno il comune a prendersi cura di queste famiglie. Perché non lo chiede anche a qualche italiano che oggi non fa figli perché non ha di che vivere, perché ha perso il lavoro? La domanda è legittima, Paolo, la domanda è legittima. Volevo capire questo, sì, a questo sindaco Parmense, che giustamente è normale che se arrivano 5 bambini, come ho capito bene, una famiglia ne ha 3, una ne ha 2, sì, teniamo conto che noi italiani, se non mi sbaglio, ho visto anche pochi giorni fa, ho sentito alla radio, sì, che noi abbiamo in alcuni paesi addirittura una popolazione ultra 65 anni dove non fanno figli. O forse gli italiani guarderanno un po' al futuro di questi figli che vengono messi al mondo e non hanno un futuro, o questi signori che profanano come se nulla fosse? Cioè, è questo che veramente vorrei che un sindaco e gli altri... I signori che procreano, come dice lei, come se nulla fosse, non sono un problema del sindaco, sono un problema di questi signori dell'Africa. No, assolutamente, però... Per quanto riguarda il sindaco, lei ha fatto una domanda giusta. Lei ha chiesto perché non è andata a cercare tra gli italiani se c'era qualcuno disposto a quelle condizioni, che vuol dire, un alloggio in un immobile del comune e... Sì, diciamo bollette pagate, ecco, forse questo sì. Perché queste famiglie credo che non possano avere un reddito, anche se lei giustamente ha detto poi in inverno vediamo se è nigeriano, però io credo che a queste situazioni, con quello che abbiamo in Italia, molte famiglie tornerebbero negli Appennini Parmensi, parlato da me molto stimati, perché a bene o male sono, anche se sono paesini sperduti, però sono situati in un bel paesaggio, tutto quello che c'è nei nostri Appennini. Credo che a questi, a 37 euro, quello che gli daranno, credo che molti Io credo che no, la sua domanda è legittima e sarebbe anche legittimo che l'offerta ci fosse anche per gli italiani, come dice lei, anzi così dovrebbe essere. Ho qualche dubbio che molti italiani si muoverebbero per andare a vivere a Bore solo per avere, diciamo, la possibilità di alloggiare in un immobile del comune, non lo so, è possibile, quello che lei ha detto non è da escludere. Grazie, traffico. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Non so fare rinunce, non so fare sacrifici, mi affido all'istinto e ai suoi benefici. Dopo ogni livido, ogni bocciatura, non perdo mai il treno che mi porta sulla luna. E se piove, almeno mi vedo l'arcobaleno. Allora, insomma, vendere tecnologie ai giapponesi non è una roba da poco, non è una roba da tutti. Per la prima volta un'azienda italiana del settore aereo-ferroviario entra in un mercato tradizionalmente precluso come quello giapponese. Tutta opera del presidente e fondatore del gruppo Mermec, Vito Pertosa. Buonasera. Buonasera a voi. Opera sua e opera anche del governo. Il governo ha dato una mano a fare questa cosa, perché Renzi, insomma, ha fatto i complimenti, ha fatto adesso con questo viaggio in Giappone. Si sa, il governo ogni volta che va in questi paesi cerca di portare avanti le aziende italiane. Insomma, voi ci siete riusciti? Sì, infatti opera mia, no, opera di tutte le persone che lavorano con me, sono bravissime e quindi è grazie a loro che siamo riusciti a raggiungere questi traguardi. Certamente il governo aiuta come non mai le imprese all'estero, bisogna dire la verità che è la prima volta che un Presidente del Consiglio va in giro dappertutto a promuovere l'Italia. C'è un bravissimo vice ministro che è Carlo Calenda, eccezionale, che anche lui trotta dappertutto, quindi c'è un dipartimento ottimo che lavora. E c'è però, c'è anche un mezzogiorno che ci sorprende, perché voi siete un'azienda radicata proprio in Puglia. Sì, siamo radicati in Puglia, ma siamo presenti in Italia anche in Toscana, in Emilia Romagna, in Veneto e in altri 15 posti del mondo. Perché si parla di un'azienda, non è un'azienda. Quanti dipendenti avete? 1000 persone, di cui l'80% laureati e 600 ingegneri. Quali sono i vostri punti di forza? Cioè, lei è presente a questo punto in quanti paesi nel mondo? 54 nazioni, prodotti venduti in 54 nazioni. Però, quanto tempo ci avete messo dalla Puglia a diventare un'azienda presente in 54 paesi nel mondo con più di 1000 dipendenti in Italia? Ci abbiamo messo, perché io sono partito con mio papà facendo rimorchi agricoli e quindi ci abbiamo messo un po', però adesso facciamo treni, aerei e satelliti e in tutto il mondo. Accidenti, dai rimorchi agricoli ai satelliti, complimenti, in una generazione, cioè come dire, insomma, come si misura una generazione tra suo padre e lei, insomma. Sì. Suo padre è quello che ha aperto l'azienda. Sì, mio papà faceva macchine agricole ed era bravissimo. E io ho portato in un altro settore. È stato altrettanto bravissimo, direi. Ho cercato di seguire gli insegnamenti di mio papà, che mi hanno insegnato a lavorare e a innovare. È modesto lei, fa un po' il modesto. No. questa roba non è che la faccio solo io, la fanno tutte le persone che lavorano con me, ingegneri bravissimi, persone bravissime che stanno con me e che noi cerchiamo di trovare i migliori. Cosa c'è di vero però nel quello che Renzi ha definito il piagnisteo e che invece Saviano in un altro modo ha definito la giusta presa d'atto di un sud, come ha registrato lo Svimez qualche giorno fa, che è fermo e che cresce meno della Grecia? Qualcosa di vero c'è anche per lei? Sì, sicuramente ci vuole un'attenzione più coordinata sul Mezzogiorno, mettiamola così, sulla spesa di fondi europei, su una strategia specifica sui settori su cui investire, sui settori da rilanciare. Cioè, la spesa non è ben organizzata, ogni regione tira per conto suo, ci sono regioni un po' più brave, regioni un po' meno brave. La Puglia per esempio è molto brava da questo punto di vista, ha migliorato molto e quindi ci sono anche delle differenze, però questo non significa che bisogna aiutare gli amici calabresi, siciliani, napoletani, lucani, tutti bisogna aiutare, perché però con un'agenda, ripeto, strutturata, che viene dal centro che bisogna coordinare le attività. Senta, la fa sorridere la battuta di Renzi sul fatto che ha invitato il premier giapponese a mangiare la pizza, o non gliene frega niente, oppure lo trova uno stereotipo che potrebbe anche essere superato? Adesso sto parlando più in generale dell'immagine dell'Italia nel mondo, visto che lei è un ambasciatore dell'Italia. No, sono d'accordissimo. Io ho fatto un incontro qualche anno fa a Villa Madama con il premier Wen Jiabao, che a noi italiani, a tutte le imprese italiane, una cinquantina di imprese italiane presenti, ha esordito parlando della pizza che gli piaceva al suo nipotino. Questa non è la cosa più bella che noi ci aspettavamo. Cioè, lei va lì a vendergli dei convogli particolarmente ipertecnologici, perché questo fate, producete. Che cosa producete? Una cosa particolare, cioè dei convogli che monitorano anche i guasti, gli andamenti sono delle automotrici di misura che hanno tantissima sensoristica elettronica a bordo, laser, piattaforme inerziali, giroscopi, eccetera, e in velocità, ad alta velocità, autorità misurano tutta l'infrastruttura e prendono i dati di tutta l'infrastruttura, sia per gli aspetti di sicurezza sia per poter organizzare meglio la manutenzione. C'è una cosa che proprio non le va giù del sistema Italia nel quale lei opera come imprenditore in maniera così clamorosa e brillante, una cosa che proprio vorrebbe cambiare adesso, subito? Ma bisogna fare un po' più sistema, e questo lo si sta facendo. Quello che bisognerebbe migliorare sicuramente è la burocrazia, diminuire molto la burocrazia e consentire alle imprese di essere un po' più libere e più veloci, insomma, a lavorare. E invece, al contrario, una cosa, il punto di forza della Mermec, se ce n'è uno, che è proprio italiano al 100%, di cui va anche orgoglioso? No, noi siamo per esempio gli unici che facciamo tutto del nostro prodotto. Progettiamo e costruiamo il treno, progettiamo e costruiamo l'ago, progettiamo e sviluppiamo il software, facciamo tutto all'interno, e questo per noi è un vantaggio competitivo. Noi abbiamo dei bravissimi ingegneri, politecnici ottimi, delle università ottime al di là delle classifiche che si vedono sui giornali, e attingiamo da queste università, e abbiamo delle persone molto brava. Quindi l'università italiana va bene così, la scuola non la cambierebbe, si fanno tanti discorsi antipolemiche, però no, per un'impresa di alto livello come la sua, la qualità italiana, la qualità delle persone è ottima. Questo non significa che non bisogna si può sempre migliorare, non esageriamo, però non ha bisogno di andarsi a prendere gli ingegneri chissà da dove, nel senso i nostri vanno benissimo, questo è già una cosa. I nostri vanno benissimo, e veramente da noi vengono dall'Olanda, dalla Danimarca, dalle altre parti, cercano di venire a lavorare con noi. Grazie e complimenti, Vito Pertosa, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Numero uno, se vedete anche le foto, è un personaggio alto, col sorriso, ed è veramente un personaggio, un grande imprenditore italiano, magari non tra i più noti, ma insomma che sta contribuendo a tenere alto la bandiera, come si suol dire, del Made in Italy, ma è una realtà. Abbiamo forse recuperato Mirko da Roma, Mirko? Ascoltatore Mirko, c'è? No, non è serata con Mirko, però andiamo con Stefano dalla provincia di Macerata. Sì, buonasera. Buonasera Stefano. Buonasera. Volevo fare un intervento abbastanza semplice, forse banale, ma secondo me importante, sul problema delle discoteche, Cocorico, eccetera. Sentiamo. Allora, io ho 43 anni, ho frequentato le discoteche. Tutti di 43 anni chiamate stasera, sì, cioè proprio la generazione di quelli che avevano 20 anni negli anni 90. Esatto. Il fenomeno delle discoteche, esploso lì, sì. Esatto, in maniera molto semplice, era uno sballo, passatemi il termine, un po' più sano un po' di anni fa, perché comunque si beveva qualche po' di vino, un po' di birra, diciamo che si faceva qualche caso. Beh, vino in discoteca non credo, No, magari prima, no? Quindi noi che facevamo, sì, anche per risparmiare. Ah, uno arrivava già bello carico, un po' di vinello. Esatto. Come gli altri miei ragazzi, quindi si andava al supermercato, si comprava una bottiglia, si risparmiava qualcosa, poi si andava o al Cocorico o nella piccola discoteca di paese, che ce ne stanno a migliaia in Italia. Però al di là del problema del povero ragazzo che è morto con una pasticca, ci sono molti altri ragazzi che muoiono per un incidente stradale. Ecco, giusto dirlo, al di là della pasticca, perché no, anche quello che mi sta raccontando lei di bere prima di andare in discoteca non è che sia al massimo, perché se uno è già ubriaco e si mette in macchina è una follia, non bisogna farlo. Esatto. Lo si è fatto sempre, prima addirittura non c'erano i controlli, se ripenso alle volte in cui io vengono i brividi a come si andava negli anni 90, non c'era un controllo, non c'era niente, succedeva di tutto, e anche tantissimi morti. Allora io voglio dire questo, sì? Almeno parlo della mia esperienza, ma quella di altri migliaia di ragazzi. Sì? Intanto i morti sono soprattutto ragazzi, maschi, perché sono i maschi che si sballano di più. Secondo me adesso mal contato il rapporto sarà 1-10, 1-20. Perché questo? Perché il ragazzo, il maschio, si sballava, diciamo così, beveva qualcosa, adesso prende le pasticche, fondamentalmente per avere più coraggio nell'interloquire con le ragazze. Per provarci con le ragazze. E questo è il motivo principale, perché altrimenti la discoteca è demenziale, perché un quadrato, la musica che è assordante, 3-4 bar in giro, non è un divertimento. A me, personalmente, la discoteca non è mai piaciuta, però 16, 17 anni, tutti andavano lì, le ragazze andavano lì. Perché la speranza era quella di cuccare, insomma. Era quella di cuccare, quindi ci si sballava per questo. E secondo me lo si continua ancora a fare. Poi si Ma lei ha mai cuccato poi in discoteca? Sì, qualche volta sì. No, io, ed mai. È per questo io che ho... No, qualche volta sì. Dobbiamo perdere questo. Una volta io andai in discoteca completamente sobrio. Una volta su mille le è capitato di andare sobrio. E cosa è successo? Hai guardato intorno e ha detto basta, non c'entro più. Una volta che sono andato sobrio, preciso, senza aver bevuto una goccia d'alcol, non essendo noi con i miei amici alcolizzati, per carità, però si esagerava un po'. Cosa è successo quella volta in 20 secondi che devo chiudere? Una volta ho iniziato intanto a parlare con le ragazze. Prima ci parlavo meno. E poi mi sono reso conto, capisco che è un po' buffo come intervento, ma è la verità, ho visto i miei coetanei come stavano messi, come stavano ridotti. Male, stavano messi male, me l'immagino. Da sobrio avrà avuto modo di capire tante cose. È bella questa telefonata, Stefano. Magari continuiamo a parlarne domani. Adesso però dobbiamo chiudere. Grazie a tutti, a Leonardo Siligato, Isotta Scenna, Grazia Gala, Andrea Piana in redazione, Paolo Corleoni in regia. Ci risentiamo domani anche insieme a Carlo Gabardini. Ciao a tutti, buona serata da Alessio Maurizio.